finale et grammatica, ac puerulis cartam, caternetum seu septem salmos. È una clausola del contratto con il quale il Comune di Moncalieri assume il 26 febbraio 1420 un nuovo maestro per le scuole cittadine, con uno stipendio di 40 fiorini l'anno. Una clausola non frequente in documenti di questo tipo. Più preoccupati di descrivere con minuzia le modalità di pagamento dello stipendio, il calendario scolastico, i privilegi e gli obblighi del maestro all'interno della comunità cittadina, che non di dichiarare in modo esplicito le tappe di un curriculum evidentemente ossequioso di un modello ben consolidato e difficilmente oggetto di discussione fra le parti. Così, anche ai nostri occhi, la scuola che potremmo definire di base nella città medievale, non mi occuperò né degli studi dei mendicanti né delle università, benché consapevole dei rischi che questa esclusione comporta, sembra avere nei contenuti dell'insegnamento il suo aspetto meno significativo. Quasi che su di esso pesi, tante volte ripetuto, il giudizio di condanna degli umanisti, e basterà ricordare le celebri espressioni di Guarino in anni non lontani da quello del documento che ho appena citato. Ignorabatur Romanus auctor Tullius eloqui, in eius autem locum, longo post intervallo cum prosperos evas columbas et carturas, irrumpentes quaquaversum imbuta absorbuisset Italia, quedam germinabat dicendi et escribendi horrens et inculta barbaries. Non credo sia inutile superare il fastidio che tutto sommato ci è facile condividere con i maestri della pedagogia umanistica per riflettere su quanto possono dirci della scuola in cui erano letti e studiati questi libri di testo, che non sono poi soltanto, come è facile constatare, i canonici auctores octo. È questa forse una via per veder vivere tra prestigio dei modelli e gioco dell'innovazione un'istituzione che si vuole in ogni tempo tra le più tipicamente conservatrici. Una via che, per essere un po' meno frequentata, può scoprire forse qualche prospettiva inconsueta, ma che, occorre appena dirlo, comporta nel tempo di una relazione esclusioni numerose. Non mi occuperò, come ho detto, dell'insegnamento superiore, oggetto d'altra parte di recenti dibattiti in questa e in altra sede, e soprattutto la maggior parte di queste note sarà circoscritta ad alcune zone dell'Italia centro-settentrionale tra 3 e 400. Se la scelta è da un lato suggerita dalla disponibilità per questo periodo di una documentazione meno frammentaria, l'impressione di un certo appiattimento cronologico e spaziale ha anche delle giustificazioni meno occasionali. Esse attengono infatti più direttamente all'oggetto che ho posto al centro di queste mie riflessioni, un programma di insegnamento che viene in questo tempo sempre più conformandosi, almeno per quanto concerne la scuola di grammatica, a un modello statico e stereotipato. Il curriculum, nelle linee generali, è noto. Ce lo attestano numerose testimonianze letterarie, tra le quali vanno almeno ricordate quelle di Eberardo il Germanico e di Ugo di Trimberg. Per restare in Italia, tra 3 e 400 la regola di governo di cura familiare di Giovanni Dominici offre una testimonianza particolarmente significativa, proprio perché nel contesto della polemica contro la nuova pedagogia vuole essere una scelta deliberatamente conservatrice. Ovidio e Virgilio, preferiti ai tradizionali autori scolastici, sono i responsabili della decadenza della morale antica nella gioventù fiorentina, quella che non si forma più su moralità di Catone, fizioni d'Esopo, dottrina di Boezio, buona scienza tratta da Santo Agostino e filosofia d'Eva Columba, sono i versi, l'incipite dei versi di Prudenzio, o Tres Leo Naturas, il Physiologus, in versi, con un poco di poetizzata scrittura santa nello Etiopum Terras, l'egloga di Teodulo. I contratti di ferma dei maestri, conservati nei libri delle amministrazioni cittadine, sono invece, come si è detto, piuttosto poveri di informazioni su questo punto. Ancor più gli statuti. La scarsa attenzione che la legislazione statutaria della città italiana riserva al capitolo sull'istruzione è un dato di fatto, sia pure con significative eccezioni. In ogni caso non si cercheranno certo informazioni sui programmi di studio negli statuti, fonte che invece dobbiamo interrogare per altri aspetti fondamentali della storia delle istituzioni scolastiche: i modi dell'intervento pubblico in materia di insegnamento, l'ampiezza della scolarizzazione, la condizione sociale ed economica dei maestri. La rubrica 58 De Magistros Scholis degli Statuti di Bassano del 1259, già più volte evocati in questa sede, fra i più articolati sotto molti di questi punti di vista, nomina appena per incidence due dei testi canonici nella scuola, i Distica Catonis e Donato. Riferimenti più circostanziati alle materie di insegnamento si trovano nei contratti sottoscritti da privati cittadini per l'istruzione di figli o pupilli, un tipo di scuola che, pur perdendo terreno rispetto a quella ufficiale, con differenti tempi e modalità in quasi tutte le città italiane, non cessò mai di accogliere una parte della domanda di istruzione della popolazione cittadina. Era evidentemente opportuno che in questo caso la menzione del programma più suscettibile di variazioni costituisse uno dei termini non impliciti del contratto. Si vedono ad esempio alcuni atti rogati già a partire dalla prima metà del 200 da notai liguri. Proprio per il mondo cittadino, in un momento di così notevole espansione della scolarità di base, risulta invece difficile recuperare la testimonianza diretta dei libri usati nelle scuole. La probabilità di sopravvivenza è, come noto, inversamente proporzionale alla presumibile diffusione per esemplari tanto soggetti all'uso e ritenuti immeritevoli di essere conservati in una biblioteca di un qualche pregio. Questa circostanza è causa di dispersione anche per i primi testi scolastici a stampa. Nessuna copia è nota del Donatus Pro Puerulis, stampato in 250 esemplari dai tipografi di Subiaco proprio agli inizi della loro attività. Tuttavia, la storia dei libri e delle biblioteche non va da questo punto di vista trascurata, anche se possiamo supporre che ci consegni l'immagine di maestri in qualche modo eccezionali, come quell'Elodisio Calvo di Voghera, che alla fine del 300 conserva nella sua biblioteca, insieme con vari salteri pro pueris e un testo di calcolo elementare, numerose e qualificate opere di classici antichi. D'altra parte, i primi incunaboli documentano il punto di arrivo nel secolare processo di fissazione del curriculum, che per il fatto di essere messo così duramente in discussione dagli esponenti della cultura più qualificata, non è perciò destinato ad esaurire tanto presto il suo successo nell'insegnamento di base, come appunto dimostrerà la storia dell'editoria scolastica per tutto il Cinquecento. Pensiamo alle raccolte degli autori Socto e, d'altra parte, ai trattati più elementari di calcolo. L'insieme di queste testimonianze, che naturalmente sono ben lungi dall'essere state esplorate sistematicamente, mostra in tempi e in luoghi diversi una notevole uniformità nei contenuti dell'insegnamento. Questo, se non altro, deve mettere in guardia dall'utilizzare questi dati in una prospettiva unilaterale. Soltanto integrandoli con altri, cercando di ricostruire per quanto possibile il contesto concreto che determina volta a volta i caratteri dell'istituzione scolastica, si può constatare quale diverso significato possa avere, nell'ambito di diverse società cittadine, ascoltare e leggere gli stessi testi, ripetere a memoria le stesse massime morali, imparare le stesse regole di grammatica e di calcolo. E a questo punto occorre dire che ogni proposta di interpretazione non può essere generalizzante, ma resterà sempre legata all'esemplificazione appunto di singole situazioni concrete. Gli scolari di Moncalieri e quelli di Firenze possono anche, entro certi limiti, imparare a leggere e a scrivere, applicarsi allo studio del latino sugli stessi libri, con metodi analoghi. Ma la loro esperienza ha certo, nella coscienza del privato cittadino, nelle preoccupazioni dei gruppi dirigenti, nella stessa concreta dinamica sociale, un diverso valore. Di questa realtà, del resto intuitiva, bisognerà cercare altrove che negli stereotipati programmi scolastici le testimonianze. Per esempio, nella condizione dei maestri. E allora abbiamo da un lato la massa oscura dei maestri nei piccoli centri piemontesi del 300 e del 400, dalla precaria situazione economica, dal mediocre prestigio sociale, presenti nella vita pubblica della città soprattutto per garantire il comportamento civile di scolaresche numerose e turbolente, dall'altro un Giovanni di Bartolo dell'Abaco che, mentre tiene scuola di aritmetica a Firenze a spese del comune, è chiamato come consulente insieme con Donatello per la costruzione della cupola di Santa Maria del Fiore. O ancora dovremo leggere, per vedere dall'interno quale importanza rivesta nella formazione dei ceti dirigenti della città l'esperienza scolastica, le clausole dei testamenti che si preoccupano di assicurare agli eredi di che mantenersi agli studi, o i libri dei ricordi di famiglia con le annotazioni relative alle spese e all'impegno riservati all'istruzione dei ragazzi di casa. Le ansiose lettere che Bartolomea Niccolini manda intorno alla metà del 300 al marito, assente per lungo tempo da casa, sono piene di preoccupazioni per l'istruzione dei figli. Riassumo. Se avessi potuto fare secondo il mio intendimento, il maestro di Ludovico, sappiamo che ha 5 anni, non sarebbe stato in casa nostra 3 giorni. Ha meno cervello di un'oca e gli ha fatto solo perdere tempo. È necessario per Ludovico che voi ritorniate, è già grande, sa molto poco e ha interrotto gli studi di lettura. Bisogna trovare un maestro che sappia il suo mestiere e che si occupi esclusivamente dell'istruzione di Ludovico e di Jacopo, l'altro figlio, perché anche lui ha 4 anni e tempo che incominci a imparare a leggere. Qual era in concreto l'oggetto di questo così precoce impegno scolastico? Ancora un'immagine di quell'età senza fanciulli, come il Medioevo è stato descritto. Abbastanza conosciute sono le prime fasi dell'insegnamento letterario. A leggere e, in tempi distinti e successivi, a scrivere, si imparava a casa, da un maestro di famiglia, oppure a scuola, da un maestro stipendiato dalle famiglie o dal comune. Nelle città più importanti, una persona cui era affidata esclusivamente la cura della prima alfabetizzazione, ma nei centri più piccoli e di minor prestigio culturale, lo stesso grammaticus, che si doveva occupare degli scolari de carta e de quaderno come dei latinantis. È il caso del Magister Novus di Moncalieri che abbiamo visto all'inizio. Si è insistito sul carattere di spiccata oralità che l'insegnamento primario continua a mantenere anche in tempi, come il basso medioevo, di più larga diffusione del libro. Sono conosciuti i semplici strumenti didattici, la tabula, detta altrove carta o Santa Croce, la tavoletta con i modelli delle lettere dell'alfabeto e dei più consueti segni di abbreviazione, che la grammatica è solita tenere in mano in molte raffigurazioni allegoriche, e si sa l'uso che si faceva del salterio e del donato minore, testi da compitare e da imparare a memoria prima ancora che se ne potesse comprendere il significato. Lo studio della grammatica latina, per lo più sul donatus minor, dava quindi accesso ai testi latini, quelli che verranno a mano a costituire il canone degli 8 autori, i Distica Catonis, l'Egloga di Teodulo, il Facetus, la Cartula, il Tobias di Matteo di Vendôme, il Dottrinale di Alessandro di Villedieu, l'Esopo latino, il Floretus e altri per i quali è talvolta possibile individuare una diversa fortuna nel tempo e nello spazio: il Geta, Prudenzio, Prospero di Aquitania, il De Disciplina Scholarium Pseudo-Boetiano, il De Varietate Fortune di Arrigo da Settimello, le Quinque Claves Sapienze, versioni latine del Physiologus, eccetera. Dunque, anzitutto, autorità antiche insieme con autorità moderne, con un'apertura che non è scelta della scuola laica, ma che già era stata operata dalla scuola ecclesiastica alla decisiva svolta tra XII e XIII secolo. E sono manuali che condensano in forma estremamente semplificata l'insegnamento tradizionale delle artes, come il Donato, ma più spesso raccolte di moralità sentenziose, che servono da libri di lettura e per l'apprendimento tecnico del latino. Le caratteristiche letterarie del testo ne confermano l'uso attraverso metodi didattici fondati sull'oralità e sulla ripetitività. Un testo frammentato in brani o sentenze brevissime, quasi sempre in versi, ricco di rime e di assonanze che ne facilitano la memorizzazione. Apparentemente distanti da quelle che siamo portati a ritenere le finalità della scuola in ambito cittadino, appaiono i contenuti, per lo più proposte di una moralità generica, che certo non può giustificare pienamente l'impegno educativo di questo tipo di scuola. Ci si domanda che significato potesse avere per i giovani latinantes e figli della borghesia cittadina la frequenza con proposizioni come le seguenti, tratte dalla Cartula, il fortunatissimo testo dello pseudo Bernardo. Predia terrarum, possessus diviziarum, fabrica murorum, grandis structura domorum, gratia mensarum cum deliciis epularum, insignesque tori, cuppe, scificque decori, resplendens vestis, quae moribus obstat honestis, e ancora, grex armentorum, spaziosus cultus agrorum, fertile vignetum diversa vite repletum, gloria natorum, dilectio dulcis etorum, cuncta relinquentur. L'insegnamento del contemptus mundi, come è stato sottolineato, è una costante anche nella scuola laica, dai livelli inferiori fino all'università. Per la scuola di base si continuano ad usare testi che, ereditati dalla scuola di grammatica tardo-antica o composti da autori moderni, sono entrati a far parte del curriculum nel contesto della scuola ecclesiastica. Si sa che la Cartula, per riprendere l'esempio appena fatto, è in origine una serie di raccomandazioni a un giovane che abbandona la vita laica per il monastero. In una certa misura, che sembra direttamente proporzionale al grado di complessità delle strutture, l'inattualità dei contenuti dei libri di testo appare come un connotato permanente dell'istituzione scolastica. Ma non con questo metro va misurata la funzionalità dell'istituzione rispetto alle esigenze di una società che diede così largo impulso alla scolarità di base. Le dimensioni quantitative del fenomeno, appunto, potrebbero essere un indizio ben più significativo. Per situazioni circoscritte nello spazio e nel tempo, non è detto che non si possa disporre di qualche dato soddisfacente. A parte le poche ben note e ampiamente discusse testimonianze delle fonti letterarie, il numero dei maestri nella Milano di Bonvesin della Riva, quello delle scuole e degli scolari nella Firenze descritta dal Villani, ricordiamo almeno i risultati dell'indagine condotta dal Verde sui catasti fiorentini del 1480. Le dichiarazioni dei capofamiglia relative all'età e all'occupazione dei componenti il nucleo familiare attestano la grandissima diffusione nella Firenze del tardo 400 dell'istruzione elementare. Il quadro, straordinariamente completo, si arricchisce di informazioni non puramente quantitative, per la possibilità di collocare ogni dato nella concreta situazione socio-economica della famiglia. Anche questo tipo di testimonianza, come quelle di carattere privato che abbiamo ricordato prima, rivela in larghi strati della popolazione cittadina un interesse per l'istruzione dei propri figli che sembra non tener conto dei contenuti spesso vecchi e inadeguati dell'insegnamento. Ma in verità, ciò che lo studente deve apprendere alla scuola del Grammaticus, con il leggere, lo scrivere e la grammatica, non è tanto la moralità un po' generica che esprimono i vecchi testi, quanto un comportamento ben più concretamente legato nella sua semplicità alle esigenze della società cittadina. Impegni del maestro Bartolomeo Calveto, rettore delle scuole in Cornier dal settembre 1468 al giugno 1472. Istem promisit ipsos scolares in timore et amore Christi et cum bonis moribus ut sint reverentes, obedientes, humiles, honesti et qui non loquantur turpia, né caliqua maledicta, nec mendacia, maxime in parentes. Item promixit diebus festivis post missam et vespros, esponere scolaribus aliquas auctoritates devotas et spirituales, et eos ducere binos ad ecclesiam et reducere, et facere quod in ecclesia scolares estente firmi, onesti, devoti, petenati et nitidi. Petenati. Si confronti il ritratto dello scolaro esemplare, quasi identico, proposto due secoli prima dalla vita scolastica di Bonvesin della Riva. Più che il contenuto del libro di testo, il veicolo del messaggio educativo è l'esperienza quotidiana del ragazzo a scuola. Una struttura ormai complessa, articolata e rigida, agli antipodi per questo aspetto della scuola alto medievale, in cui il rapporto con l'educatore, scarsamente formalizzato, tendeva a riassumere in sé tutto il processo formativo. Eppure, qualche segnale di una moralità diversa, laica e civile, si insinua talvolta anche tra le pagine dei testi che proseguono la venerata tradizione dei dicta catonis, come il Facetus, o nelle disincantate conclusioni delle favole dell'Esopo latino. Più che regole morali, sono, come nel caso del Facetus, semplici norme di comportamento pratico, si direbbe di Galateo, secondo un genere che dal 300 in poi conosce un vasto successo a differenti livelli anche fuori dell'ambiente scolastico. La scuola di base non riesce certo ad esprimere la consapevolezza di un legame organico tra formazione culturale e impegno civile che anima, per esempio, l'insegnamento di Brunetto Latini, ma è innegabile che qualcuno dei caratteri, i più esteriori del buon cittadino, si può ricavare anche dalle massime di un testo come il Facetus, che hanno nel mondo della città, nelle assemblee religiose, nelle riunioni conviviali, nelle strade e nelle piazze il loro sfondo naturale. È del Facetus questa raccomandazione: si doctrina datur, si vis ut prosit e matur, si datur gratis, nihil dicitur utilitatis. Se il curriculum dell'insegnamento letterario ricalca quello della scuola ecclesiastica, se altri aspetti di continuità dal punto di vista istituzionale fra questa e la scuola laica cittadina potranno essere messi in luce in un dibattito che si deve considerare ancora aperto, per altri aspetti il capovolgimento di prospettiva non potrebbe essere più radicale. L'affermazione che ho letto ne misura l'ampiezza da un punto di vista particolare, ma molto importante. Si potrebbero affiancare ad essa quelle di un testo dalla vasta fortuna nella scuola, le Quinque Claves e Sapienzie, in cui l'obbligo al rispetto e alla riconoscenza verso il maestro, un luogo comune della letteratura scolastica, si precisa di connotati molto concreti. Ergo discipuli, letum servare magistrum per studeant, ut dogmata grata ferat. Pertimeant, venerentur eum, meritumque laboris non retraant. Optat premia quisque labor. L'attività dell'insegnante, un ministero che nella legislazione ecclesiastica aveva come irrinunciabile requisito quello di essere esercitato gratuitamente, è ora chiaramente valutato nel suo significato economico. La scuola laica nella città nasce come un'iniziativa privata i cui fini di lucro sono spesso evidenti. Per il maestro o anche per il finanziatore che vi investe i suoi capitali, addirittura potremmo dire per il padre o il tutore dello studente che saprà mettere a frutto in un'attività professionale ciò che è stato speso per la sua istruzione. Pensiamo al celebre contratto per la scuola di Porto Venere o ad altri contratti registrati da notai liguri che, come è stato notato, cito, hanno l'andamento tipico dei numerosi e coevi contratti di apprendistato, poiché nella società genovese l'insegnamento scolastico viene concepito e valutato alla stessa stregua di una qualsiasi arte appresa presso un artigiano. E basti appena accennare alla tendenza dei maestri a regolare attraverso l'istituzione di organismi collegiali anche e soprattutto gli aspetti economici della propria attività, un momento non secondario della presenza organizzata di questi intellettuali di professione nella società cittadina. Anche dove e quando l'onere dell'istruzione viene assunto in tutto o in parte dall'amministrazione della città, quando quindi a definire i caratteri dell'istituzione entrano in gioco altri e più complessi elementi, l'aspetto economico non passa mai in secondo piano. Si veda tutta la normativa degli statuti e soprattutto dei contratti tra maestri e comuni. In particolare, le disposizioni che riservano a un maestro il monopolio scolastico in città, che gli consentono di praticare l'insegnamento libero per gli scolari forestieri, che gli danno garanzie del pagamento delle rette dovute dalle famiglie degli scolari. Ma c'è un altro aspetto, e questo proprio relativo al programma degli studi, che fa della scuola nella città una scuola nuova. Se nell'insegnamento letterario il nuovo si affaccia appena tra il vecchio, dimostrando un sostanziale disinteresse della città per gli aspetti più specificamente culturali del problema, in un altro settore non meno importante dell'istruzione di base, la scuola appare veramente come specchio fedele della mentalità, degli interessi, della cultura cittadina. È la scuola dell'abaco. Bisognerà ancora una volta distinguere tra situazione e situazione. Le città della Toscana sono, per diffusione e qualità di questo tipo di insegnamento, un territorio privilegiato. Genova offre per altri aspetti un'esperienza particolare, sulla quale non mi soffermerò, l'insegnamento della grammatica secundum mercatores. Secondo la già ricordata testimonianza di Giovanni Villani a Firenze intorno al 1339, su una popolazione di circa 90.000 abitanti, da 1.000 a 1.200 frequentano le 6 scuole attive in città per l'insegnamento dell'aritmetica. Nel catasto del 1480 i ragazzi che stanno all'abaco sono circa 650, in età compresa tra i 10 e i 16 anni. È già stata messa in evidenza la preoccupazione organizzativa di alcune amministrazioni cittadine nel corso del 300 perché ai giovani sia assicurato questo tipo di insegnamento, così come la posizione di prestigio che i maestri d'abaco vengono ad assumere in qualità di esperti nella vita economica della città. Mi soffermo invece ancora una volta sul contenuto di questo insegnamento. L'autore di uno dei primi incunaboli italiani di aritmetica pratica, che conoscerà in seguito numerosissime ristampe e vasto successo, il cosiddetto Abaco di Treviso del 1478, scrive nel prologo: «Pregato più e più volte da alcuni giovani a me molto dilettissimi, li quali pretendevano a dover voler fare la mercadanzia, che per loro amore mi piacesse affatigarmi un poco de dargli in scritto qualche fondamento circa l'arte de aritmetica, chiamata vulgarmente l'abaco, onde io, costretto per amor di loro, et eziandio ad utilità di tutti chi pretendano a quella, secondo la piccola intelligenza dell'ingegno mio, ho deliberato, se non in tutto, in parte tamen soddisfare a loro, a ciò che loro virtuosi desideri utile frutto ricevere possano. In nome di Dio, adonca, tolgo per principio mio il ditto de algorismo, così dicendo: tutte quelle cose che dalla prima origine hanno avuto producimento, per ragione de numero, sono sta formade. Si noti subito che questo incipit è il solo richiamo ai fondamenti teorici dell'aritmetica boeziana alto medievale, una tradizione che nel corso dell'opera si rivela come completamente estranea e riaffiorante perciò solo in uno sterile riecheggiamento. Gli storici della matematica rilevano come nei 3 secoli che vanno da Leonardo Fibonacci a Luca Pacioli la scienza aritmetica e algebrica non segni al suo attivo nessun sostanziale progresso. Rimane ancora l'ostacolo della persistente frattura fra il mondo che si rivolge all'arte dei numeri per la soluzione di problemi pratici di calcolo e quello che coltiva gli interessi per la matematica speculativa, nel segno della raccomandazione aristotelica: la scienza dei numeri non va insegnata alla maniera volgare occupandosene a scopo di compravendita, come mercanti e rivenditori, ma in modo che l'intelligenza possa contemplare la natura dei numeri. In realtà, se questa affermazione può valere, e neppure pienamente, per l'Alto Medioevo, dovrebbe essere meglio precisata per i secoli che ora ci interessano, che sono piuttosto i secoli della volgarizzazione dell'insegnamento del Fibonacci, lontano dalle prospettive tradizionali dell'aritmetica nicomachea e boeziana, ma che aveva saputo dare fondamento di scienza all'aritmetica calcolatoria. Perciò, mentre la tradizione di origine neoplatonica e neopitagorica non cessa di alimentare gli interessi della cultura più elevata e spesso più esoterica, proprio nell'ambito dei continuatori del Fibonacci, la distanza tra teorie scientifiche e pratica del calcolo, seppure non si annulla, tende certo a ridursi. Uno studio più approfondito del mondo in cui operano volgarizzatori di Leonardo Pisano e maestri di calcolo potrebbe forse indicare, proprio nella scuola d'Abaco, il luogo di questa faticosa e fruttuosa conciliazione. Ancora una volta bisognerà guardarsi dal generalizzare. Accanto agli anonimi maestri che si limitano forse a spiegare i tanti e fantasiosi modi per eseguire le quattro operazioni, ma è comunque un altro mondo rispetto a quello delle tecniche digitatorie altomedievali, ci sono i maestri toscani, di cui sono noti i nomi, attività scientifica e impieghi pubblici, chiamati ovunque si aspiri a impiantare una cultura scientifica ad alto livello. E per restare ai testi di studio, ci sono da un lato i complessi trattati di aritmetica, dall'altro le facili rime del Carmen e de Algorismo attribuito a Alessandro de Vidia, le raccolte di ragioni, problemi risolti da mandare a memoria senza dimostrazione, e prontuari pratici come le regoluzze di Maestro Pagolo, il manuale di base che conobbe la maggior fortuna a Firenze. In ogni caso, la scuola del maestro Abacista si presenta, a confronto con quella del Grammaticus, come quella più innovativa, proprio per la più precisa rispondenza alle esigenze della società nella quale è inserita. Non penso soltanto alle esigenze pratiche dell'attività commerciale. È significativo che sia questa la scuola in volgare, anzi forse di volgare. Come recenti indagini sembrano confermare, i futuri scolari di calcolo non imparavano o non sempre imparavano i rudimenti della lettura compitando salteri e donatelli, ma talora facevano uso di una specie di nuovo sillabario, il cosiddetto babbuino, distinguendo fin dall'inizio il proprio curriculum da quello dell'insegnamento letterario. Ma su questo punto molto potranno ancora dirci le indagini, delle quali abbiamo avuto recenti saggi, sui modelli calligrafici che contraddistinguono la cultura scrittoria delle classi medie cittadine. Così, mentre l'insegnamento elementare del latino, nella sua finalità prevalentemente pratica, implicava una profondissima frattura rispetto agli interessi della contemporanea latinità colta, la scuola dell'Abaco non appare completamente slegata dalle più significative correnti culturali operanti in città. Non solo la cultura che apre protagonisti gli studiosi della nuova aritmetica o i grandi mercanti che leggono Dante e Boccaccio, ma anche la cultura volgare più modesta e circoscritta, per esempio dei piccoli centri periferici, quella ad esempio delle raccolte di proverbi o dei drammi sacri in volgare, se si vuole evocare uno sfondo anche per le scuole delle piccole città piemontesi, delle quali abbiamo visto qualche testimonianza. Nella diversità delle situazioni, di cui ho dato qualche saggio, la preoccupazione di assicurare a un ampio settore della popolazione cittadina una semplice istruzione di base sembra in ogni caso essere un tratto comune alla politica scolastica di molte città italiane. Istruzione di base che non necessariamente è il primo gradino nella formazione della cultura del mercante, quello che avrà frequenza quotidiana con il latino degli strumenti e i calcoli dell'aritmetica commerciale, ma serve anche all'abitante della piccola città che apprende così i rudimenti del leggere, dello scrivere e del far di conto insieme con le norme del vivere civile. Questa preoccupazione tutta concreta giustifica alcuni connotati che abbiamo visto tipici di questa scuola. La sostanziale indifferenza ai contenuti specifici di tutto un settore dell'insegnamento, l'impegno organizzativo di gran lunga prevalente su quello culturale, l'insistenza su una pedagogia del comportamento estremamente semplificata, ben lontana, per evocare due naturali punti di confronto, dalla ricchezza della pedagogia monastica e di quella umanistica. Spiega anche le ragioni di un fenomeno, quello dell'espansione della scolarità di base, che, pur non essendo oggetto a questo livello di significative prese di posizione teoriche, ebbe nei fatti una tale imponenza da non sfuggire proprio a chi non mancava di criticarne gli aspetti culturalmente più regressivi. Prosperi, Eve Columbe e Cartule sono pur stati i testi che irrumpente squaquaversum imbuta absorbuit Italia. Unbedingt daraus in diesem Zusammenhang gezogen werden muss. Ich werde also, da ich das Manuskript hatte, zwei oder drei dieser Zitate, wenn nicht übersetzen, so dann doch auch so zusammenfassen, als sei es Text von Fräulein Prober und nicht Zitate. Sie hat begonnen mit dem Zitat aus einem Anstellungsverfahren eines Lehrers für eine kleine Stadt, Moncalieri, im Jahr 1420. Der Lehrer erhält 42 Gulden zum Honorar. Und es wird ganz im Gegensatz zu sonstigen ähnlichen Verträgen ausdrücklich gesagt, was er unterrichten soll. Nun, da ist ein Punkt, es sind viele solche Bücher, die also als Schulbücher bzw. Lehrbücher gegolten haben oder gelten sollten, im Zuge dieses Vortrags erwähnt worden. Von diesen Büchern kannte ich bei erster Lektüre allenfalls die Hälfte. Und ich muss voraussetzen, da möglicherweise der ein oder andere von Ihnen sich weniger mit lateinischer Literatur des Mittelalters beschäftigt hat als ich, dass der ein oder andere von Ihnen noch wesentlich weniger als die Hälfte dieser Bücher kennt. Es lohnt sich also nicht, sie aufzuzählen. Ich will es an einem einzigen Fall machen. Das sind die sogenannten kanonischen 8 Autoren, die ich Ihnen vorführe. Das ist einfach nur zur Einführung, nachher können wir davon aufhören. Die Christica Catonis, zwei Zeiler aus der Antike, die im Mittelalter einen großen Erfolg hatten, weil sie so weise und leicht zitierbar waren. Die Egloga des Theotulus, ein Text aus dem 10. Jahrhundert, geistlich erbauliche Hexameter für unsere Verhältnisse schwer zu verstehen, denn im 10. Jahrhundert gab es Gelehrte, die sich sehr unverständlich ausgedrückt beliebten. Dann kommt der Facetus, den ich nicht weiß, die Cartula, die ich auch nicht weiß, irgendwo im Text heißt es dann, die ist vom Pseudo-Bernardus, der Tomias von Matthäus von Vendôme, ein Text also aus dem 12. Jahrhundert, das Doctrinale des Alexander de Villadei, das ist eine berühmte Grammatik in Versen aus dem 1. Viertel des 13. Jahrhunderts, der lateinische Aesop, also lateinische Übersetzung der griechischen Fabeln des Aesop aus dem Altertum und schließlich der Philoetus, den ich auch nicht kenne. Um gleich bei diesem Kanon von 8 Schulbüchern zu bleiben, es ist dann später gesagt worden, noch bei den Druckern des 16. Jahrhunderts kehrt diese Zusammenstellung von 8 kanonischen Schulbüchern oft wieder. Und da ist an einer Stelle geht also wieder zurück zu dem Versuch, den Vortrag zusammenzufassen. Denn das Urteil der Humanisten, die das 14. und 15. Jahrhundert über natürlich die Schulen, von denen hier die Rede sein soll, nämlich nur die städtischen Schulen, die Laienschulen, also nicht Klosterschulen, nicht kirchliche Schulen, nicht Universitäten, auch nicht die Schulen in den Kettelklöstern. Die Humanisten haben ein außerordentlich negatives Urteil, was da in der Schule gelehrt wird, eine horrendes et inculta barbaries, eine fürchterliche, ungebildete Barbarei. Und dazu eben gehören zum Beispiel diese 8 Autoren. Ein wesentlicher Teil des Vortrags handelt von dem Inhalt des Unterrichts. In einem Libro di Familia, also einem Familienbuch des Dominici aus Florenz, wird die Verwendung von Ovid und Vergil im Schulunterricht als Ursache dafür angegeben, dass die Jugend in Florenz so heruntergekommen ist. Hätte man sie mit den altbewährten Schulbüchern unterrichtet, dann wäre das viel besser gewesen. Es ist sehr schwer, Schulbücher zu finden. Leicht, Verzeichnisse zu finden, obwohl auch das gekommen sein will. Aber Schulbücher sind Verbrauchsbücher. Und so ist zum Beispiel, weiß man, dass die beiden deutschen Drucker in Subiaco, Weinheim und Panas, als eines der ersten 250 Stück des kleinen Donat, das ist also die lateinische Grammatik für Schulzwecke, gedruckt haben. Von diesen 250 Stück ist kein einziges erhalten. Sie sind alle verbraucht. Und das gilt auch für weitere Zeiten. Schulbücher sind sozusagen nicht bibliothekswürdig. Es sei denn, dass einmal in einem Fall, der zitiert wurde, ein Lehrer nicht nur Schulbücher, sondern auch ganz wertvolle Klassiker in seiner Bibliothek hat. Da ist also das Berufshandwerkzeug, die Schulbücher, verbunden mit guten Büchern, sonst ist das in der Regel nicht. Wie noch die Schulbuchdrucke des 16. Jahrhunderts, von denen ich schon sprach, zeigen, handelt es sich um eine ganz ungewöhnliche Einförmigkeit des Inhalts. Auch wenn mal der eine, mal der andere Autor oder Text da ist, der Inhalt ist eigentlich immer dasselbe. Moralita sententiali oder sentenze morali, Sentenzen, moralisch etc., von denen gleich noch weiter die Rede sein wird. Doch, und hier ist ein Punkt, auf den Fräulein Vorwand Wert gelegt hat, bei aller Einförmigkeit, oder jetzt könnte ich vielleicht sagen, Gleichförmigkeit des Inhalts, hat der Schulunterricht, etwa in Moncalieri oder in Florenz, völlig verschiedene Wirkungen haben können. Es ist ein großer Unterschied, ob man etwas lernt in einer Schule einer winzigen Stadt oder ob man es lernt in einer Schule in einer großen Stadt, denn es gehört die Umwelt und alles dazu. Und es gehört vor allen Dingen auch zum Schulunterricht, und da wird nachher, das habe ich aber später aufgeschrieben, noch ein Zitat dann von mir genutzt werden müssen. Es gehört vor allen Dingen auch dazu, dass die Schüler Disziplin und Ordnung lernen und nicht nur lesen und schreiben. Diejenigen Lehrer, die nur vorwiegend für das Eintauchen von Disziplin und Ordnung bestellt waren, genossen nicht unbedingt sehr hohen Ansehens in der Stadt. Hingegen gibt es andere Lehrer, und Fräulein Vorwald in diesem Zusammenhang einen Rechenlehrer aus Florenz, Giovanni di Bartolo, genannt, die ein hohes Ansehen genossen. Giovanni di Bartolo wurde als Sachverständiger bei der Planung des Baus der Florentiner Domkuppel hinzugezogen. Und das ist immerhin also für einen Schullehrer ja eine ganze Menge. Unterrichtet wird entweder in Schulen, in öffentlichen Schulen oder im Haus. Und hier muss ich Ihnen nun das erste Zitat sagen, weil es sehr, mir sehr deutlich zu sein scheint. Mitte des 14. Jahrhunderts schreibt Bartolomea Nicolini an ihren Mann, der in der Ferne ist, folgenden Brief: Wenn ich gekonnt hätte, wie ich gewollt hätte, dann wäre der Lehrer von Lodovico, ihrem Sohn, der 5 Jahre alt ist, nicht länger als 3 Tage in unserem Haus geblieben. Er hat weniger Hirn als eine Gans und hat den Jungen nur Zeit verlieren lassen. Es ist unbedingt nötig, dass Lodovico, es ist nur Lodovicos Leben unbedingt nötig, dass ihr zurückkommt. Er ist schon groß, er weiß furchtbar wenig und er hat seine Lektüre unterbrochen. Wir müssen unbedingt für ihn einen Lehrer finden, der sein Handwerk versteht und der sich ausschließlich mit dem Unterricht dieses Jungen und seines kleinen Bruders Jakob beschäftigt. Denn Jakobo, es ist Zeit, dass er endlich auch zu lesen lernt. Der war damals 4 Jahre alt. Dieses Beispiel also für Qualität oder auch Auftrag von Lehrern etc. Man lernt also lesen und später nach dem Lesen das Schreiben, entweder in der Schule oder, wie hier in diesem Beispiel, zu Hause, nicht nur nach so gelehrten Schulbüchern, von denen ich bisher sehr kurz nur gesprochen habe, sondern auch nach sehr viel einfachen Unterrichtsmitteln, die Tabula oder Carta oder Santa Croce ist also ein Täfelchen oder ein Pergament, das die allegorische Darstellung der Grammatik oft in der Hand hat. Und da sind die Buchstaben des Alphabets drauf, offensichtlich, und die wichtigsten Abkürzungszeichen, die man damals verwendete, offensichtlich also ein Unterrichtsmittel in der damaligen Schule. Noch einmal zurück zu dem Kanon der Autoren der Schulbücher. An dieser Stelle hat Fräulein Vorwart betont, die Auswahl dieser Schulbücher geht im Wesentlichen zurück auf die kirchlichen Schulen bis zum 12. Jahrhundert. Das heißt, die weltlichen, die Laienschulen haben das Unterrichtsmaterial sozusagen übernommen, kaum verändert. Im Wesentlichen geht es um Texte, die man möglichst gut auswendig lernen kann. Der Inhalt sind allgemeine Morallehren. Ein langes Zitat über die Reichtümer dieser Welt in Hexametern, was ich nicht wiedergebe, entpuppt sich, nachdem Fräulein Vorwart ist uns lange, also sie hat 8 oder 9 Zeilen vorgelesen, entpuppt sich als Teil eines Gedichts, dass die Weltflucht eines künftigen Mönchs befördern soll. Solche Lektüre also fand sich in der Laienschule. Ganz allgemein kann man sagen, Kennzeichen, und zwar Dauerkennzeichen der Schulbücher und des Inhalts der Schulbücher ist absolute Inaktualität und Unbrauchbarkeit für den täglichen Gebrauch. Es gibt aber, wie ich schon angedeutet habe, eben noch ein wesentlich anderes Interesse an einer breiten Schulbildung, nämlich das Interesse sozusagen Unterricht im bürgerlichen Verhalten. Und dazu also das Zitat, ein Schulmeister in Courmier, 1468 bis 72 betrifft. Er hat versprochen, seine Schüler in Furcht und Liebe Christi und mit allen guten Sitten, damit sie zu erziehen, damit sie ehrfürchtig, gehorsam, demütig, ehrlich sind, keine unanständigen Reden führen, weder Böses noch Lügen sagen und vor allen Dingen nicht gegenüber ihren Eltern. Er versprach außerdem an den Sonn- und Festtagen, nach der Messe und nach der Vesper seinen Schülern einige christliche Autoritäten zu erklären und vorzulesen, sie zu 2 und 2 in die Kirche zu führen und aus der Kirche wieder zurückzuführen, den Ausdruck ich Ino Star, das heißt zu, also zu 2 und 2, und dafür zu sorgen, dass die Schüler in der Kirche still sind, sich anständig benehmen, demütig sind, gut gekämmt und sauber. Dieses also als eine Aufgabe des Lehrers über das reine Lesen und Schreiben lehren hinaus. An diesem Zusammenhang hat dann Fräulein Frober hingewiesen darauf, dass man an einer Hinsicht, an einer Stelle doch vielleicht eine Neuerung innerhalb auch des Lehrinhalts gegenüber den Lehrinhalten der kirchlichen Schulen finden kann. Das ist nämlich die Frage der wirtschaftlichen Behandlung des Lehrers. In der kirchlichen Gesetzgebung bis ins 12. Jahrhundert und darüber hinaus ist eine ganz strenge Regel, dass der Unterricht gratis erteilt werden muss. Für Unterricht darf nicht bezahlt werden, die Schulen sollen gratis sein. Dass das in den Universitäten dann zu einem unendlichen Streit geführt hat, da Universitätsleute schließlich auch für sich selber zu sorgen verstehen, doch damit endete, dass die Professoren Hörgelder einziehen konnten. Das will ich nur nebenbei sagen. In der Schule, in der Stadt, der Laienschule, ist die Bezahlung des Lehrers etwas Selbstverständliches. Ob der Lehrer nun angestellt wird von einer Familie, ob er angestellt wird von jemandem, der eine Schule errichtet und dort also seine Lehrer beschäftigt, oder ob er von der Kommune angestellt wird. Bezahlung ist selbstverständlich. Wirtschaftlich, die wirtschaftliche Seite der Schule etwa 20% von der Stadt angestellten Lehrern, das in deren Anstellungsverträgen ihnen zugesagt wird. Sie dürfen frei Unterricht auch an auswärtige Schüler, nicht nur aus der Stadt, erteilen oder dass ihnen das Eingehen des Schulgelds von Seiten der Eltern garantiert wird. Im Fall der privaten Schulen wird in Ligurien etwa ein Vertrag zwischen dem Lehrer und den Eltern abgeschlossen, der haargenau dem Vertrag, der zwischen einem Handwerksmeister und den Eltern des Lehrlings abgeschlossen wird. Der Schulunterricht gilt also so ähnlich wie eine Lehre. Nun aber, ich rede viel zu lang. Nein, ist so interessant. Das so interessant ist, genau. Ich bitte um Entschuldigung. Nein. Aber ich habe, glaube ich, noch wenig das zugefügt oder interpretiert. Das Fazit alles dessen, was über die Schule, in der man das Lesen und Schreiben lernt, gesagt worden ist, ist, hier gab es verhältnismäßig wenig Neuerungen. Und nun kommt das eigentlich Wichtige an dem Vortrag, wo ich nun sehr viel weniger verstehe und deshalb sehr viel weniger sagen kann. Es gibt außer der Schule, in der man lesen und schreiben lernt, auch die Schule, in der man rechnen lernt. Ja. Nun hier wieder eine Übersetzungsschwierigkeit. Fräulein Frober kam schön und gut, und das ist im Italienischen ganz legitim, immerzu von Scuola d'Abaco sprechen, von der Abacus-Schule, wo wir entweder vom Rechenunterricht oder von der Schule, in der der Rechenunterricht erteilt wird, sprechen. Beides ist auf Italienisch Scuola, bei uns macht man den Unterschied zwischen dem Unterricht und der Schule, in der unterrichtet wird, mit Worten. In der Sache machen den Unterschied die Italiener natürlich auch. Und hier ist das Erste, dass Fräulein Frober mit einer ganz klaren Zahl gekommen ist. In Florenz gibt es einen Kataster von 1480, der in dieser Hinsicht untersucht ist. Nach dem Kataster von 1480 lernen 650 Kinder den Abakus. Kinder zwischen 10 und 16 Jahren. Matteo Villani, den sie etwas vorher zitiert hatte, sagt um 1320, 30, dass damals 1200 Florentiner Kinder in die Schule gehen. Das heißt also Lesen und Schreiben oder Rechnen lernen. Bei dem Abakus oder dem Rechnen ist eine Schwierigkeit, wir könnten auch sagen Mathematik, ist eine Schwierigkeit, dass es eine antike Tradition der spekulativen Mathematik gibt. Hier muss ich versuchen, ein Aristoteles-Zitat ins Deutsche zu übersetzen. Die Wissenschaft von den Zahlen wird nicht auf die übliche Weise unterrichtet, indem man sich damit beschäftigt, zum Zwecke des Kaufens und Verkaufens, wie die Kaufleute und die Wiederverkäufer, sondern in einer Weise, damit der Verstand die Natur der Zahlen betrachten lernen kann. Es gibt also diese spekulative Mathematik, die auf ganz anderes hinauszielt als auf praktische Lösung von Rechenaufgaben des Alltags. Und dann gibt es diese zweite, eben die Rechenaufgaben des Alltags, die praktische Mathematik. Und Fräulein Vohwer sagt, die Geschichte der Mathematik, die üblichen Handbücher sagen, dass von Fibonacci bis Pacioli, also etwa von 1200 bis 1500, 300 Jahre lang, in der Arithmetik, der Zahlenmathematik, keine Fortschritte zu verzeichnen seien. Und sie meint, dass die Betrachtung des Schulunterrichts im Rechnen und in der Mathematik wohl dazu führen kann, das ist das Gebiet, auf dem sie arbeitet, deshalb hat sie sich hier früh vorsichtiger ausgedrückt als in den anderen Teilen des Vortrags, gerade die Überbrückung der Kluft zwischen der theoretischen, spekulativen, wissenschaftlichen Mathematik und dem praktischen Rechnen, also die Überbrückung dieser Kluft, ist wahrscheinlich ein wesentlicher Teil sozusagen des Fortschritts in der Mathematikgeschichte in diesen drei Jahrhunderten. Und dieser Fortschritt in der Mathematikgeschichte wird verdankt den Rechenlehrern, den Abakuslehrern, die wie schon der eine genannte, in den Städten meistens verhältnismäßig hohen Respekt genossen. Nun kommt aber ganz am Schluss, fast tückisch, das sind also hier zwei handgeschriebene Seiten, da steht das Allermeiste drauf. Sie spricht davon, dass auch für das Rechnen Schulbücher gibt, dass man auch im Rechenunterricht Dinge auswendig lernt, zum Beispiel die Lösung von Rechenaufgaben, die gar nicht erklärt werden, sondern man lernt eben die Aufgabe und die Lösung auswendig und irgendwann kann man dann wahrscheinlich auch das Rechnen, was dazwischen ist. Aber dann kommt etwas ganz Wichtiges. Lesen und Schreiben lernt man auf Lateinisch. Und hier muss ich einmal dazu sagen, wenn ich in einem lateinischen Text des 12., 13., 14. Jahrhunderts das Wort Grammatica finde, dann übersetze ich das mit Latein und nicht mit Grammatik. Und ich glaube, dass Fräulein Vohwer das auch tun würde. Obwohl, wer unbedingt Grammatik übersetzen will, schließlich mit Umwegen über den Donar auch beim Latein ankommt. Aber Fräulein Vohwer sagt, in der Rechenschule, da muss man ja auch lesen und schreiben können. Da wird wahrscheinlich nicht der Donat das lateinische Lesebuch oder Lernbuch, sondern der Babuino verwendet, ein italienisches Lesebuch oder ein italienisches Buch, Klavierbuch, eine Fibel, wie wir auf Deutsch sagen, die also Babuino ist der Affe oder der Pavian genau, also einen solchen Decknamen hat. Und die Schlussfolgerung hier wieder mit viel wahrscheinlich etc., weil sie wahrscheinlich noch mehr und genauer darüber wissen möchte, dass die Bürger der italienischen Städte eine lateinische Bildung in der Lese- und Schreibschule und eine italienische Bildung in der Rechenschule bekommen haben, was freilich gegenüber den traditionellen kirchlichen Schulen etwas vollständig Neues wäre, denn die Volkssprache wurde in der Rechenschule nicht gelehrt. Die Rechenschule vermittelt also, würde demnach, ich wiederhole, es ist hypothetisch formuliert von Fräulein Vohwer, würde demnach nicht nur Kenntnisse im Rechnen, sondern auch eine Art bürgerliche Bildung in der Volkssprache, eben in der italienischen Sprache, vermittelt haben. Nun aber nach dem langen, was ich hier schon geredet habe, ein ganz kurzer Schluss. Weder die eine, das heißt die Lese- und Schreibschule, in der man Lateinisch lernt, noch die andere, die Rechenschule, in der man vielleicht auch Italienisch gelernt hat, ist eigentlich eine Schule, die Berufsausbildung liefert. Lesen, Schreiben, Rechnen, Latein, Italienisch, ich sage das jetzt ein bisschen anders als vorher vorher, aber ich glaube, dass ich Sie nicht verfälsche. Lesen, Schreiben, Rechnen, Latein, Italienisch und bürgerliches Verhalten, Disziplin, das alles ist eine Art allgemeiner Bildung, die unterste Stufe einer Art allgemeiner Bildung, von der höheren Bildung hat von einem Vorratsbildung sprechen wollen, weit ab von dem, was Kloster- und Humanistenschulen zu vermitteln wussten und vermittelt haben, aber ebenso weit ab auch von der Berufsausbildung, die etwas anderes ist, außerhalb der Schule, nämlich im Beruf erfolgt. Sono elenchi che abbiamo per Bologna, elenchi di personale, di, insomma dei cittadini che devono partecipare all'esercito. Sono delle liste quindi di reclutamento, diciamo. Allora, sto facendo un lavoro per cercare di schedare tutte le professioni che compaiono vicino a questi nomi in questi elenchi, per vedere la consistenza numerica di certe professioni in ambito cittadino e eventualmente anche per vedere la dislocazione di certe professioni in ambito cittadino. Ora, in questo lavoro di schedatura, che mi interessava soprattutto per professioni di carattere artigianale, insomma così, ho visto che compaiono molto spesso anche delle persone che hanno delle qualifiche invece di maestri. Maestri che insegnano ai fanciulli, maestri di arte e grammatica. Volevo chiedere soltanto questo alla signora, se un tipo di fonte del genere, secondo lei, può avere un interesse proprio nel raccogliere i nomi e nel valutare eventualmente anche l'entità della presenza di maestri del genere in una città come Bologna, cioè se è una cosa utile da fare, tenere presente anche questo vicino alle altre professioni oppure no. Beschäftigt sich in Bologna mit dem Studium, mit der Untersuchung der sogenannten Venticinquine. Venticinquine ist also ein Wort, das auf 25 zurückgeht. Es handelt sich dabei um, Wehrstammrollen, so würde man, glaube ich, auf Deutsch ganz konkret sagen müssen. Das heißt, um Verzeichnisse von den Leuten, die wehrpflichtig sind. Und es gibt aus dem 14. Jahrhundert, aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts mindestens zwei solche Venticinquine, die man auch miteinander vergleichen kann, eines vor, eines nach, einer Pest. Das habe ich aber jetzt hinzugefügt, weil ich im Laufe dieser Woche gehört hatte. Und in diesen Verzeichnissen der Wehrpflichtigen sind auch Berufsangaben. Außerdem sind diese Berufe einigermaßen lokalisierbar. Stadtverbindung oder so. Unter den Berufen kommen auch Lehrer vor, und zwar Lehrer von Kindern oder Lehrer der sieben Künste oder Lehrer der Grammatik, also des Lateins. Die Frage von Herrn Gretschi ist, ob ähnliche Listen Antwort auf Formen des Unterrichts und auf Häufigkeit von Lehrern und Ähnlichem geben können. Dunque, dico subito che per me l'interesse, proprio per quanto concerne i miei interessi, un tipo di fonte di questo genere è preziosissima. E questo si può vedere anche se si studia un momento la storiografia sull'argomento. Dobbiamo dire che, a parte diciamo, ricerche individuali che uno può aver fatto su questo tema, o per settori o per ambiti molto limitati, una gran parte di questi discorsi si basa ancora su contributi di studiosi dell'inizio del secolo, appunto su, che raccolgono materiale, certo molto meno sistematico di quello di cui ci parli, ma di questo tipo, Doctores Puerorum a Firenze, e lì un elenco, niente più che un elenco, diciamo, della presenza di questi nomi e di queste qualifiche professionali nell'ambito della città, e così altri di questo tipo. Sono materiali che, su cui ancora adesso siamo costretti a basarci, a meno che appunto per qualche settore non facciamo ricerche specifiche. Quanto all'attendibilità della fonte circa il problema della presenza, per valutare se effettivamente questa fonte possa essere una fotografia della presenza dei maestri della città in città in quel periodo, credo che sia tu meglio, un miglior giudice di quanto non possa essere io, perché naturalmente sono valutazioni che attengono più alla natura della fonte che non al problema in generale. Io invece su questo potrei dire qualche cosa sulle possibilità di utilizzazione di un materiale di questo genere. E io vedo una utilizzazione in due direzioni. Una ricerca, direi, di tipo prosopografico sui nomi di questi maestri, che se la sorte ci favorisce e ci permette di controllarne la presenza anche in altre città, magari anche attraverso altri documenti, naturalmente contratti di fermo o cose del genere, ci può dare una fotografia precisa, abbastanza precisa, della mobilità dei maestri e la possibilità di valutarla nel tempo e nello spazio. Quindi questo serve anche a qualificare, diciamo, l'importanza del centro in oggetto come centro scolastico, per vedere la capacità di attrazione che può avere. E poi, diciamo, invece la valutazione della mobilità nel tempo può dare delle indicazioni abbastanza precise sullo stato sociale, anche socio-economico dei maestri, perché indubbiamente una mobilità molto intensa nel tempo significa, per lo più, poi ci sono altre motivazioni, ma significa una situazione economica non favorevole, chiaramente, perché uno che sta bene non si sposta. E poi, per quanto attiene invece alla formazione culturale dei maestri e ancora alla capacità di attrazione del centro in oggetto come centro scolastico, la ricerca, sempre prosopografica, si può fare sulla presenza di questi nomi negli studi e nelle università, per vedere naturalmente come era qualificato questo personale e se il personale qualificato aveva interesse a trasferirsi in quel centro. Una cosa un po' di questo genere, naturalmente limitata, l'ho cercato di farla per i comuni 3-400 nell'attuale provincia di Torino, dove abbiamo molti ordinati, e qualche cosa si può appunto vedere, cioè quei discorsi che ho fatto sullo stato socio-economico del maestro molto depresso, diciamo, in questi comuni, in parte sono basati su una ricerca di questo genere, perché fanno vedere che questi continuamente si spostano e si riescono a seguire anche, si spostano continuamente, non riescono a tenere il saldo delle loro dei loro stipendi da parte sia delle famiglie sia dei comuni, quindi vanno da un'altra parte, insomma tutte queste cose. E poi una cosa che volevo dire anche, ma non l'ho detta anche perché c'entrava un po' limitatamente con quello che avevi detto tu l'altra volta, si possono vedere anche famiglie di maestri, cioè la continuità della professione di maestro all'interno di una famiglia, e da questi documenti in parte si possono vedere, almeno per quelli che avevo io su Piemonte si può vedere il greggio, per esempio. Faccio soltanto una precisazione a proposito di questo indirizzo di ricerca prosopografica e sulla necessità di seguire l'andamento di spostamenti di questo personale da una città all'altra. Ecco, forse questo è un pochino difficile da fare, perché queste liste registrano individui bolognesi, cioè sono cittadini di Bologna, ecco. O comunque gente che risiede lì già da tanto, che ha acquistato la città, che paga, certo, naturalmente le tasse a Bologna. Sì, sì. Quindi eventualmente possono essere inseguiti altrove questi bolognesi che eventualmente si spostano, sì, da Bologna. Certo. Forse la cosa interessante che a me era venuta in mente, siccome questi elenchi sono continui per molti anni, riuscire eventualmente negli estimi a vedere il tipo di consistenza patrimoniale di questo. Sì, sì. anche questo, sì, questo ho fatto anche questo, perché per alcuni di questi che erano presenti negli ordinati come parte del contratto di ferma, erano poi presenti nei catasti e si poteva vedere chi erano questi qui. E si vedeva che erano dei poveracci. Gli estimi è ancora l'ordinamento, è una cosa da fare. Questo sarebbe veramente utile. Gli estimi avrebbero di vestito. Susanna, si fa... Qual è il foto a solche Personenverzeichnisse, welche aus welchem Grund angelegt worden sind, für ihre Arbeit oder Arbeiten in dieser Richtung sehr wertvoll sind. Dass das Urteil über das einzelne Verzeichnis allerdings beim jeweiligen örtlichen Fachmann besser ist als bei jemandem, der eine überregionale Arbeit macht. Orthografische Untersuchungen, wie sie durch solche Listen ermöglicht sind, geben verschiedene Möglichkeiten. Wenn man den gleichen Namen an verschiedenen Stellen findet, so kann man schließen auf die Mobilität der Angehörigen des Lehrerberufs. Man kann schließen auf die Anziehungskraft der betreffenden Stadt als Zentrum für Schulen. Man kann schließen auf die soziale Stellung der Lehrer. Denn, ich zitiere wörtlich oder übersetze wörtlich, wem es gut geht, der geht nicht weg. Und umgekehrt, wer von Ort zu Ort zieht, dem geht es nicht so gut. Hierzu hat Fräulein Vorwart in der Gegend von Berlin eine Untersuchung gemacht, aus der hervorgeht, dass tatsächlich vielen Lehrern, die ihr Gehalt entweder von der Familie, bei der sie beschäftigt waren, oder von der Stadt, bei der sie beschäftigt waren, nicht vollständig oder gar nicht bekommen haben, dass die also weitergezogen sind, um woanders besser zu verdienen. Sie hat festgestellt, dass es auch Lehrerfamilien gibt, weil die protokollarischen Quellen so etwas natürlich erlauben. Und schließlich in einzelnen Fällen, nämlich beim Vergleich dieser Quellen mit Universitätsmatrikeln, auch feststellen können, ob und inwieweit Lehrer einen Teil ihrer Ausbildung oder ihrer Verschuldung auf der Universität bekommen. Felci hat dann noch hinzugefügt, wenn man die Venti Cinquine allein nimmt, dann sei für die Mobilität der Lehrer nur insoweit etwas zu gewinnen, da die Venti Cinquine nur Bologneser Bürger enthalten, seien also von auswärts gekommene Lehrer erst zu greifen, wenn sie das Bologneser Bürgerrecht erworben haben. Aber im Vergleich mit Steuerlisten könne man unter Umständen das Vermögen dieser Bologneser Lehrer feststellen und im Vergleich mit außer Bologneser Quellen unter Umständen die Anwesenheit von Bologneser Lehrern. Quindi dunque c'è il dottor Lonzo. Mich hätte in Ihrem Vortrag besonders das interessiert, was Sie über die Rechenschulen gesagt haben. Und zwar auch im Hinblick darauf, dass die Ausbildung eben im Rechnen, und zwar, wie Sie gesagt haben, sowohl im Spekulativen wie im Praktischen, aber vor allem im Praktischen natürlich für den Kaufmanns Beruf von großer Wichtigkeit war. Ich habe nun zwei Fragen, und zwar die eine, kann man etwas darüber aussagen, welche Leute jetzt, welche Bürger ihre Kinder im Rechnen ausbilden ließen, waren das die Kaufmannsschichten? Und eine zweite Frage, ab wann lässt sich im Schulunterricht das Rechnen mit arabischen Ziffern nachweisen? Due domande, una che riguardano la scuola dell'Abaco. Una, chi manda i suoi figli nella scuola dell'Abaco? Sono i mercanti o chi è? L'altra domanda, da quando l'insegnamento nella scuola dell'Abaco utilizza le cifre arabe invece delle romane? Dunque, per quanto riguarda chi manda, quali diciamo ceti sociali o classi sociali mandano i propri figli a studiare alla scuola d'Abaco, penso che sia opportuno fare una precisazione che mi consente anche di specificare meglio un punto che forse dalla mia relazione non è risultato molto chiaro, proprio in relazione a quell'ambiguità del discorso scuola del termine scuola che aveva sottolineato il professor Elze. L'insegnamento del calcolo nelle scuole cittadine poteva essere svolto in modi molto diversi, diciamo a livello di complessità molto diversi. Nelle scuole, nelle situazioni in cui le esigenze di cultura aritmetica non sembrano essere molto forti, abbiamo una situazione di questo tipo, cioè un unico maestro insegna la grammatica, che vuol dire il latino, e l'abaco, e per lo più in questi casi è anche lo stesso maestro che insegna addirittura a leggere e scrivere. Quindi abbiamo la coincidenza di tre insegnamenti, quello del Magister Puerorum, quello del Grammaticus e quello della Bacista. A queste scuole è possibile pensare che andassero anche persone di famiglie non particolarmente economicamente non molto elevate, perché veniva impartito quell'insegnamento di carattere proprio elementare. Certo, invece, alla scuola della Bacista, specializzata nel calcolo, che naturalmente veniva seguita dopo che già si aveva appreso a leggere e a scrivere, e quindi era una scelta alternativa a quella della scuola del Grammaticus, in questa scuola evidentemente gli interessi degli studenti, quindi delle famiglie degli studenti, dovevano essere di altro tipo, perché c'era una base comune, la scuola del Doctor Puerorum, dove imparavano a leggere e scrivere, poi potevano scegliere tra il Grammaticus e la Bacista. Nel catasto del 1480, di cui ho parlato a Firenze, questo si vede molto bene. Si vede che di alcuni bambini si dicono sta a leggere, di altri si dice sta presso il Grammaticus, di altri si dice sta all'abaco, e questi hanno tra gli 11 e i 16 anni. Da questo catasto sembrerebbe che anche famiglie con redditi molto modesti mandino i bambini a scuola dell'abaco, e non soltanto famiglie di commercianti, ma anche famiglie di artigiani di modesta levatura. Però su questo punto io ho qualche dubbio, devo dire. Prima di tutto il dubbio principale deriva dal fatto che Firenze si deve considerare per l'insegnamento dell'abaco un caso privilegiato, e cioè posso pensare che anche un artigiano potesse avere interesse a mandare i figli alla scuola dell'abaco, perché era una situazione in cui l'insegnamento aritmetico era veramente molto diffuso. Ma soprattutto non so come valutare questa fonte, cioè non so se veramente le dichiarazioni di questi, come dicevamo prima, si debbano considerare attendibili, dal momento che il fatto di dichiarare che questi stavano a scuola era un vantaggio per loro dal punto di vista fiscale. Quindi quello è. Cioè, diciamo, nei punti in cui abbiamo la documentazione sembrerebbe che anche artigiani abbastanza modesti mandano questi figli alla scuola dell'abaco. In altre situazioni abbiamo indicazioni di carattere più generale del fatto che questi, in parole povere, imparavano a leggere, a scrivere e a far di conto. Ecco, questo per la prima domanda. Per la seconda domanda, quella del, o forse vuole tradurre solo, quella dei numeri, dell'introduzione delle cifre aree, mi invita a nozze, perché questo è proprio un argomento di cui mi sono occupata abbastanza. Sappiamo che, però non voglio farla troppo lunga, insomma, sappiamo che le cifre arabe sono state introdotte nella pratica calcolatoria, diciamo intorno al 1000, però non hanno avuto una diffusione hanno avuto un ritardo nella loro diffusione. Vediamo che ancora molto tempo dopo la loro introduzione continuano a essere preferite le cifre romane. Nella scuola cittadina le cifre arabe non hanno mai il sopravvento, l'uso delle cifre arabe non ha mai il sopravvento completo su altri sistemi di annotazione dei numeri. Anzi, il sistema romano continua ancora con un certo successo, anche addirittura altri sistemi, come per esempio la designazione dei numeri attraverso le lettere dell'alfabeto. Su questo punto c'è da notare una cosa molto importante, che moltissimi statuti delle arti prescrivono, cioè interdicono l'uso delle cifre arabe nella pratica commerciale, perché più forse facilmente alterabili, adesso questo lo sapete meglio voi di me. Quindi questo indubbiamente può avere ritardato anche nella pratica dell'insegnamento la completa vittoria di questo sistema di annotazione. Erste Frage, nach dem welchem Unterricht und wer den Aufzug hat, Frau Robert, das veranlasst noch einmal deutlich zu machen, dass man sozusagen zwischen Grundschule, das heißt dem Unterricht des Dr. Uroborum und der nächst höheren Schule, das heißt, wenn ich es so ausdrücke, unterscheiden muss. Der Lehrer der Kinder und der unterrichtet eventuell auch verhältnismäßig Kinder aus verhältnismäßig einfachen Familien, gibt allein den Unterricht in Latein, Rechnen, Lesen, Schreiben. Das ist ein verhältnismäßig einfacher Unterricht, der aber von Kindern aller Art benutzt, also bevorzugt wird. Danach geht man entweder zum Arabista, also zum Rechenlehrer, oder zum Grammatikus oder Latinista, dem Lateinlehrer. Und dieses ist also eine Alternative. Wer den Abakus lernt oder wer die Grammatika, also das Latein lernt, sind dann zwei verschiedene Schultypen. Denn auch bei diesen höheren Schulen, also vor allen Dingen in die Rechenschule, die geben aber nicht nur Kaufleute-Söhne, sondern auch die Söhne von Handwerkern, also ärmeren Handwerkern, wie also man etwa aus dem Kataster von Florenz 1580 sehen kann. Die Frage nach den arabischen Ziffern, da haben Sie sozusagen ins Schwarze getroffen, weil das Thema ist, mit dem Florian Prober sich sehr beschäftigt. Arabische Ziffern gibt es in Europa seit etwa 1200 Jahre früher, als ich gedacht hätte. Sie setzen sich aber nur langsam durch und in der Schule niemals ausschließlich. In der Schule werden neben arabischen Ziffern oder vorarabischen Ziffern weiterhin römische Ziffern oder auch Buchstaben zur Zahlenbezeichnung verwendet. Und Frau Vogel weist darauf hin, dass in einzelnen Statuten, Zunftstatuten vor allen Dingen, der Gebrauch arabischer Ziffern verboten worden ist. Möglicherweise deshalb, weil arabische Ziffern viel leichter verändert werden können als andere. Dunque, io ho il professor dottor Ie, poi il dottor Marsini e poi le due padovane. Uno o due? Non importa. Uno, per il momento. Meine Frage lautet, geht dahin. Wir haben in Tirol, und das gilt ja auch für die übrigen deutschsprachigen Gebiete, gehört, dass also eine sehr enge Beziehung besteht zwischen dem öffentlichen Notar und dem Schulwesen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier in Italien ganz andere soziologische Verhältnisse obwalten, sodass also in Italien sich ein öffentlicher Notar kaum als Schulmeister einen Nebenverdienst gestaltet hat. Es hätte mich aber interessiert, ob es vielleicht doch vorgekommen ist. Der südlichste Fall einer Verwendung eines lateinischen Schulmeisters, eines öffentlichen Notars als lateinischer Schulmeister, ist mir in Neumarkt, also in Enya, hier bekannt geworden. Bitte. Dr. Hue conosce il caso in cui i notai pubblici fanno anche i maestri di grammatica, cioè di latino. E il caso più meridionale è Neumarkt. Come si chiama? Enya, qui non molto lontano. E vorrebbe sapere, anche se non ci crede, se i notai delle città italiane abbiano anche svolto la funzione di maestro. Posso rispondere? Sì. Dunque, questo è un problema in certi ambiti molto studiato, è un grosso tema, diciamo, della storiografia sulla scuola nelle città italiane. D'altra parte ricerche approfondite anche su questo punto Ce ne sono parecchie, basti ricordare il testo di Costamagna su Il notaio a Genova tra prestigio e potere. Però naturalmente anche qui, come al solito, abbiamo delle isole fortunate in cui si può trovare qualche cosa, altre su cui le fonti sono completamente mute. Per quanto riguarda Genova, che è appunto l'ambiente dove questo problema è stato meglio studiato, una cosa si può dire, che certamente i notai sono tra i primi maestri laici presenti in città, che poi loro, diciamo, al notaio, al maestro notaio, il maestro notaio si possa considerare un maestro di latino nel senso del grammaticus tardo medievale, come quelli che ho presentato io, non saprei dare una precisa risposta. Certo insegnava il latino, perché insegnava la stesura dei documenti, degli atti, eccetera, però certamente il suo tipo di insegnamento si può presupporre, e ne abbiamo anche testimonianze, dal punto di vista dei contenuti, molto diverso da quello del grammaticus del 3-400, che appunto si serviva di quei testi che ho detto. Dubito che il notaio maestro di latino usasse questi testi. Certamente è sicuro, come dicevo, che sono tra i primi maestri laici a Genova, e abbiamo contratti in questo senso. Anche la presenza stessa delle prime scuole laiche a Genova, negli stessi luoghi dove sappiamo che erogavano i notai, può essere un indizio in questo senso. Poi naturalmente il notaio nel successivo sviluppo della sua carriera, specialmente in questi centri dove il suo prestigio socioculturale è molto alto, diventa un personaggio importante anche nella vita letteraria, culturale della città, ma questo mi pare che sia un discorso che esula un po' dalla domanda come era stata posta. Comunque vorrei almeno ricordare il fatto che, anche perché questo attiene più direttamente alla storia della scuola, che questa loro funzione di maestri, a Genova perlomeno, si va un po' esaurendo con la importanza crescente dei maestri di grammatica come specializzati in questo settore dell'insegnamento, e notiamo che una parte della loro attività, diciamo al di fuori di quella strettamente professionale, si esplica invece nell'attività di copisti. Questo è abbastanza ben documentato. E sappiamo che avevano anche una vasta cultura letteraria, su questo non mi diffondo perché il discorso è abbastanza risaputo, insomma. Frage ist etwas komplizierter zu beantworten, als man ursprünglich gedacht hätte. Insbesondere in der Frühzeit, in Genua hat man die Arbeit von einem ganzen Buch von Costamagna über das Notariat, es gibt viele Arbeiten über das italienische Notariat. Im 12. Jahrhundert ist es ganz klar, dass die Notare in Genua auch unterrichten, dass sie zu den ersten Laien gehören, die als Lehrer auftreten. Was sie unterrichten, ist aber ganz sicher völlig anders als der Lehrstoff, von dem der Vortrag heute handelte. Sie unterrichten das Latein, wie man es für Notarsakten braucht, und werden in diesem Elementarunterricht eigentlich bald abgelöst von den Berufslehrern, von denen heute vor allem die Rede war. Von Herrn Vorwart hat er darauf hingewiesen, dass die Notare mit ihrer lateinischen Bildung zum Teil ganz erheblich hohen Niveaus zum geistigen Leben der Stadt erheblich beigetragen haben. In Bezug auf das mehr Handwerkliche des Lateinischen etc. hat sie nur darauf hingewiesen, dass es Notare gibt, die als Abschreiber von Büchern bekannt sind, also als Kopisten, und als solche auch eine gewisse Rolle gespielt. Volevo aggiungere, posso una domanda per il professore? Appunto, se da queste testimonianze di cui lei diceva si vede che cosa insegnavano questi, cioè insegnavano a fare i notai praticamente, oppure erano proprio dei maestri, cioè il tema che ho sviluppato. Von einem Vorwand gewesen, ob in Ihrem Köln, von dem Sie sprachen und ausgingen, die Möglichkeit besteht festzustellen, was diese Notar und Lehrer unterrichtet haben, der Lehrinhalt. Wenn ich gleich beantworten darf. Wir haben also wenige genaue Anweisungen, wo also ein Dienst Vorschriften erteilt werden. In den wenigen Fällen, wo solche Dienstanweisungen vorliegen, wird der Schwerpunkt, es wird wohl das Trivium genannt, Lesen, Schreiben, Rechnen, aber der Schwerpunkt liegt dann auf dem kirchlichen Gesang. Der Schwerpunkt des Lateinunterrichtes in der Stadtschule ist, dass der Lateinschullehrer seine Schüler dahin bringen müsse, dass sie in der Lage sind, in der Kirche den lateinischen Choral zu singen, die Messe zu gestalten, die Begräbnisse, die Prozessionen und so weiter. Hier ist also der Schwerpunkt der Verwendung des Latein. Und da gibt es also keinen Unterschied zwischen einem Lehrer, der kein Notar und also nicht in dieser gehobenen Ausbildungsschicht sich befindet, und einem solchen, der also nur ein einfacher Stadtlehrer gewesen ist. Aber das ist also in kurzen Worten ja. Questo certamente è interessante. Per le città tirolesi si può sapere qualche cosa sul curriculum. È così che il maestro, se notare o no, deve insegnare leggere, scrivere i calcoli, fare i calcoli, ma poi la cosa principale sono i canti ecclesiastici, che gli allievi possano seguire e eseguire i canti ecclesiastici, e questo è indipendente dal fatto se il maestro sia notaio, laico o no. In questo senso quindi è molto più interessante la sua documentazione, sì, perché questi effettivamente sono maestri a tutti gli effetti, insomma, non sono... Weil Bora sagt, das heißt also, dass auch die Notare, die dort unterrichten, wirkliche Lehrer sind, sì, ja, und nicht nur in ihrem Handwerk. Sì, sì. Allora, c'è, si è aggiunto anche Don Roger. Io avevo prima prenotato Marsili, la signorina e Monsignor Roger. Allora, Marsili. Si è detto che anche figli di artigiani, di modesti artigiani, potevano frequentare, potevano queste liste di alunni. Ecco, io chiederei, rilasciando il discorso che si faceva più tardi di ieri, del paternalismo, che legava molto spesso il maestro artigiano con l'apprendista, se siamo testimoniali che l'insegnamento, forse non di grammatica, ma forse sì di leggere, scrivere, tanto conto da parte del maestro all'apprendista all'interno del rapporto corporativo. Die Frage, wenn also auch Handwerkersöhne die Rechnungsschule oder die Grammatikschule oder Feinschule besuchen konnten, nachdem die Rede war in ihrem Vortrag von der Tatsache, dass Verträge zwischen Eltern und Lehrern so geschlossen werden wie Verträge zwischen Eltern und Handwerksmeistern für ihre Kinder als Lehrlinge, so wie für ihre Kinder als Schüler, ob es also Verträge von solchen Handwerksmeistern mit Lehrern gibt, über den Unterricht im Habakus. Dunque, certamente sì, cioè la bottega artigiana appare anche dai contratti come un altro importantissimo luogo dell'apprendimento di base, che poi questo comportasse il leggere, lo scrivere e il far di conto dipendeva ancora una volta dalla situazione di maggiore o minore richiesta di una fabilizzazione in questo senso. Alcune volte nel contratto è precisato questo fatto, riguardando soprattutto il far di conto, e che questa fosse un'esigenza sentita in alcune situazioni e che fosse ritenuta la bottega artigiana come un luogo in cui questo insegnamento doveva svolgersi, è testimoniato anche dal fatto che abbiamo degli statuti di corporazione, dei collegi che assumono un maestro per insegnare i rudimenti del leggere, dello scrivere e del far di conto ai figli dei membri della corporazione. Questo naturalmente significa che già in questa situazione c'era una certa specializzazione delle funzioni, non era più il maestro d'arte che insegnava a leggere e scrivere, ma era un maestro appositamente assunto per questo scopo, però era assunto dalla corporazione per i membri E quindi questo significa che in un certo senso era sentito come una fase della formazione di questi ragazzi. Sì. Anche i modelli di scrittura che ha studiato Petrucci sembrano dimostrare che esisteva un insegnamento all'interno della bottega, perché ci sono dei tipi di scrittura che accomunano tutti i partecipanti a una certa attività, no? Sì. Ich hatte die Frage nicht ganz richtig verstanden, aber mir wird sie wiedergegeben. Es ging also darum, ob auch der Lehrling in der Werkstatt des Meisters eventuell Schreib- und Lese- oder Rechtsunterricht bekommt. Fräulein Vorwart hat geantwortet, es gebe Verträge, Lehrlingsverträge, in denen ausdrücklich vom Rechenunterricht die Rede sei, dass auch der Lehrling auch das Rechnen lernen soll. Dass das Anfang wahrscheinlich auch durch den Handwerksmeister geschehen ist auf dem Unterricht, dass aber Beispiele bekannt sind, wo Zünfte, Lehrer, Schreiben, Rechnen und Lesen anstellen. Und Fräulein Barone hat noch darauf hingewiesen, dass Professor Armando Petrucci im Forum eine Untersuchung macht über die Schrift von Berufstätigen, aus denen hervorgeht, dass bestimmte Berufsgruppen an bestimmten Orten gemeinsame Schriftmerkmale aufweisen, woraus man schließen kann, dass sie auch in einen gemeinsamen Unterricht erhalten haben, etwa durch einen solchen von der ZUM zugestellten Lehrer. Signorine. Vorrei sapere come il babuino testimoniato è nel volgare di quale città? No? Come il babuino testimoniato è nel volgare di quale città? Si mette gerne wissen, dieses italienische Bibel namens Babuino, wo sie bezeugt sei und in welcher Volkssprache, das heißt in der Sprache, in welcher Stadt sie geschrieben hat. Dunque, questo appunto è un aspetto dell'insegnamento del volgare che si collega al discorso che facevamo prima, o perlomeno si sospetta che si possa collegare col discorso che facevamo prima. Cioè, anche in base a questa ricerca di tipo paleografico, si sospetta che uno degli strumenti dell'insegnamento, dell'alfabetizzazione nell'ambito volgare e proprio nella bottega artigiana potesse essere questo babuino, che era una specie di, come si chiamano, come si usava anche noi quando andavamo a scuola da piccoli, di abbecedario, in cui erano indicati i principali nessi vocalici e consonantici, e per questo forse si pensa che abbia preso questo nome di babbuino, perché fa a, ba, ba, eccetera. E finora, ne ho viste soltanto due testimonianze di questo babbuino, una in ambito toscano, che è stata presentata da Lucchi, e l'altra in ambito ligure, adesso non ricordo proprio se a Genova o in un'altra città della Liguria, in cui in un elenco di testi si parla di questo babbuino. E quindi direi non si può precisare a quale volgare fosse funzionale, perché in realtà lo era tutti, non era un insegnamento su un testo che presentasse un testo di senso compiuto, era semplicemente, diciamo, l'equivalente della tabula in cui erano indicati le lettere dell'alfabeto e i principali segni di abbreviazione. Almeno questo si sospetta. Naturalmente bisognerebbe avere documentazione più vasta sull'argomento. Monsignor Roger? Il Babuino è non eigentlich ein Schulbuch, sondern eine Bibel für ABC-Schützen. Enthält also nur Buchstaben und Silben zum Einüben dieser Dinge. Fräulein Vorwart kennt zwei Nachweise, also zwei Vorkommen, eins in der Toskana, eins in Genua, meint aber, dass bei dem Charakter dieses Buchs es auch sicher sehr schwer sein würde, festzustellen, in welcher der italienischen Volkssprachen das Dialekt abgemacht ist. La domanda sul personale di queste scuole cittadine, anche sentendo il contenuto di questi insegnamenti, mi sono domandato una volta, vorrei chiedere l'impressione almeno dal mio punto di vista, in quale percentuale, in quale misura delle figlie di questi maestri, come vengono chiamati, c'erano effettivamente di fatto dei chierici, sì. Se non dei preti, dei chierici, perché il contenuto mi sembra molto ispirato in quella direzione, e d'altro canto sappiamo quanto la tradizione del precettista, insomma privato almeno, sacerdote, nelle famiglie si è prolungata anche in seguito. Sì. E Monsignor Roger möchte gerne wissen, wie viele oder wie viel Prozent etwa unter den Lehrern der städtischen Schulen Geistliche gewesen sind, wobei er ausdrücklich sagt, nicht Priester, sondern Kleriker, weist darauf hin, dass die Hauslehrer noch bis in neueste Zeiten hin oft Kleriker gewesen sind, was vor allen Dingen natürlich für das protestantische Deutschland gilt. Mehr noch entschuldigen Sie, Monsignor. Er sagt, dass ja der Lehrplan, der Lehrinhalt sehr scharf eigentlich auf geistliches Hinweis. Und Sie hatten ja selbst gesagt, dass der ganze Lehrplan eigentlich aus den Klosterschulen vor der Einrichtung der Laien stammt. E condivido la sua impressione che la presenza di ecclesiastici tra i maestri di queste scuole che abbiamo detto laiche, così forse un po' approssimativamente, è sempre molto forte, risulta sempre molto forte. Questo può essere testimoniato dai contratti dei maestri e anche da altre fonti che cercherò di riassumere in breve. Si nota un'evoluzione nel tempo della presenza di questi maestri ecclesiastici all'interno delle scuole cittadine. Nella prima fase gli ecclesiastici, adesso generalizzo naturalmente, sono presenti in numero abbastanza rilevante, ed è il periodo in cui l'insegnamento nella scuola è soprattutto, diciamo, un'impresa di carattere privato, in cui c'è un maestro che assume per esempio un collaboratore oppure un altro maestro in funzione subalterna, e insieme mettono insieme su una piccola scuola privata a cui fanno affluire gli studenti e i ragazzi, che stabiliscono con loro dei contratti per l'insegnamento. In questo caso molte volte si vede in questi contratti di collaborazione, paritari o meno, tra i maestri la presenza di questi chierici. Poi possiamo notare che col passare del tempo c'è una certa reazione del personale laico nei confronti di questo personale ecclesiastico, che viene visto sempre più di malocchio, naturalmente con l'aumentare della disponibilità anche di personale laico come maestri nelle scuole cittadine, e in relazione alla maggiore o minore forza del collegio dei maestri. Vediamo che si cercano di espellere o perlomeno di mettere in difficoltà di azione i maestri ecclesiastici. Per esempio vediamo una quantità di situazioni diverse. Sappiamo che a Genova nel 400 laici ed ecclesiastici fanno scuola, però in alcuni casi è proibito agli ecclesiastici di reggere scolas. Possono soltanto fare i collaboratori, ma non possono essere il rector, diciamo, della scuola. Oppure notiamo che abbiamo delle limitazioni per gli ecclesiastici nel numero degli allievi, limitazioni più gravi che non per i laici. Qui ci sono situazioni diverse, ma per esempio, non so, abbiamo dei casi in cui se ad un laico è consentito di avere 10 allievi, dopodiché è costretto a prendere un repetitor, all'ecclesiastico è imposto di prendere un repetitor quando gli allievi ne ha 8. Poi ci sarebbe tutto il discorso, ci ritorniamo sempre sopra, questo dimostra come in fondo sia un documento abbastanza eccezionale, raro, insomma non comune, sugli statuti di Bassano e sull'interpretazione che si debba dare a quella clausola fatta proprio specificamente nella riformazione degli statuti del 1295 per il castellano, dove dice che duo parvi pueri possint ire cum presbiteris occasione ferendi cruces et turibulum, che è stato interpretato in vario modo, e in alcuni casi è stato interpretato anche come l'affermazione della possibilità del, del presbiter di avere dei propri allievi, di tenere dei propri allievi, ma non più di due. Io poi ho qualche dubbio anche sul fatto che questo significhi una possibilità, e su questo si potrebbe discutere all'infinito, sul fatto che questi tenevano scuola, può essere anche semplicemente una clausola che serve ad assicurare la presenza di questi bambini nell'occasione del... Anche perché adesso lì vorrei sentire... Cioè, è proprio nel contesto dell'obbligo, no? Dice questi devono andare a scuola con quelle modalità, calendario eccetera, e poi dice duo parvi pueri, salvo che due, che ogni tanto si potrebbe anche interpretare, che ogni tanto non vanno a scuola perché devono andare a seguire il prete in queste cose. Secondo me non è tanto chiaro che sia proprio che il prete tiene scuola soltanto a questi due che poi si porta dietro. Però, che il prete non tiene scuola. Ma neanche a quei due, secondo me. Ecco. Invece certi dicono che quei due erano allievi del prete, li imparavano lì a leggere e scrivere. Appunto, secondo me è semplicemente quello. Vabbè, comunque sempre limitati a due. Posso aggiungere un'altra cosa sul rapporto fra insegnanti e notai? Proprio a Bassano noi abbiamo un imperiale autoritate notarius et professor artis grammatice, e che è il castellano di Bassano, autore di quel poemetto sulla pace di Venezia, che è la prima stesura della interpretazione veneziana della pace di Venezia del 1177. Questo castellano, capace di scrivere un poemetto di tanta importanza sul piano storiografico e sul piano della propaganda politica, era un fedel servitore del comune di Bassano, perché ha fatto più volte parte del collegio dei consoli, perché faceva da cancelliere e era veramente un fedele collaboratore della sua città, cioè del suo castrum natale. Non siamo a città. Weil vorher bestätigt Monsignor Roger in seiner Vermutung, dass der Anteil der Kleriker an den Lehrern, an der Lehrerschaft verhältnismäßig hoch gewesen ist, besonders in früher Zeit, dass aber eine bestimmte Unterscheidung hinsichtlich der Laien und der Kleriker als Lehrer zu finden sei. Die Kleriker finden sich öfter als Helfer, also als angestellte Lehrer, als Schulrektoren. Insbesondere in den Fällen, wo ein Laie eine Schule gründet und sich Lehrer anstellt, weil er alleine nicht durchkommt, sind diese Hilfslehrer meistens Kleriker. Mit zunehmender Zeit und mit zunehmender Zahl von Laien als Lehrern nehmen auch die Versuche zu, die Kleriker im Lehrerberuf zu beschränken oder gar sie zu vertreiben. Für Genua zum Beispiel gibt es ausdrücklich im 15. Jahrhundert die Bestimmung, dass nur Laien Schulen leiten dürfen. Er ist Kleriker, nur unter der Leitung eines Laien in der Schule tätig sein dürfen als Lehrer. Und da gibt es Bestimmungen, die eine gewisse Unterscheidung zwischen Laien und Diskriminierung der Kleriker zeigen. Wenn es etwa heißt, wenn ein Laie 10 Schüler hat, dann muss er sich einen Repetitor zur Hilfe nehmen. Wenn ein Kleriker 8 Schüler hat, dann muss er sich einen Repetitor zur Hilfe nehmen. Dieses hat gewisse Auswirkungen wirtschaftlicher Art, die jeder sich leicht vorstellen kann. In Bassano, dem Ort, von dem nun immer wieder die Rede war, im Heimathaus von Fräulein Fasoli, gibt es den Fall, dass der Lehrer zwei Pueri dem Priester zur Verfügung stellen muss für den Fall, in dem die kirchlichen Zeremonien Ministranten, wie wir sagen würden, brauchten, und eine große Kontroverse, ob diese zwei Schüler, die dem Schulunterricht entzogen, und dem Gottesdienst also zur Verfügung gestellt werden, nun vom Priester unterrichtet worden seien oder nicht, die einheitliche Interpretation der hier Anwesenden sagt, sie sind nicht vom Priester unterrichtet worden, sondern nur dem Priester zur Verfügung gestellt worden für die nötigen gottesdienstlichen Zwecke. Fräulein Fasoli hat aber noch auf einen anderen Fall hingewiesen. In Bassano lebte auch der Autor des für die venezianische Auffassung von diesem Ereignis wichtigen Carmen über den Frieden von 1177. Dieser ist ein imperiali auctoritate notarius, das heißt also ein Notar mit kaiserlicher Autorisierung und gleichzeitig Professor artis grammatice, also Lateinlehrer, und ist aber außerdem nachgewiesen, öfters tätig gewesen bei der Regierung oder vielmehr der Verwaltung dieses Castro, nämlich als Kanzler, aber auch als Angehöriger des Rats und so weiter. Also ein, wie sein Carmen zeigt, sehr hochgebildeter Laie, der gleichzeitig Lehrer und Teilhaber an der Gewalt, in, an der Verwaltung im Ort gewesen. C'era anche Prodi. Sì, e con l'occasione per ringraziare veramente questa relazione così importante dal punto di vista proprio dei contenuti. Nello stesso tempo ho una curiosità che mi rimane dal punto di vista istituzionale, proprio per la minoranza, cioè sul, se è possibile attualmente tracciare una linea di sviluppo cronologico e geografico, almeno con grandi linee, sul, su quella che è stato l'inizio della politica dell'istruzione, insomma, ecco, cioè appunto i primi interventi pubblici di questo settore. Io conosco soltanto le pagine di Cipolla, di Carmine Cipolla e basta, sull'alfabetizzazione, insomma, sugli inizi, ecco, dell'alfabetizzazione, non diciamo di massa, ma certamente di quantità piuttosto rilevanti della popolazione. Sulla base degli statuti, sulla base è possibile, insomma, ecco, cominciare a costruire qualcosa di più o è già stato fatto, magari non ne sono al corrente. Insomma, ecco. E die Frage, ob es möglich ist, geografisch und historisch detailliert oder jedenfalls in großen Zügen eine Art Geschichte der Schulpolitik zu geben. Herr Prodi zitiert Carlo Maria Cipolla, der ein paar Seiten über die Alphabetisation geschrieben hat und in denen Statuten und Ähnliches als Quellen benutzt sind. Und die Frage an Fräulein Prober also, ob man in dieser Hinsicht vor allen Dingen von der verfassungsmäßigen Seite her, also institutionell, vielleicht in großen Zügen etwas sagen kann. Diciamo che da un panorama complessivo emerge certamente il fatto che la società, questo è chiaro, la società tardo medievale sia estremamente più alfabetizzata che non quella del periodo precedente. Ma quanto su questa vicenda abbia influito l'intervento pubblico, diciamo, è ancora nei particolari da stabilire, si possono soltanto tracciare delle linee molto generali. Certamente si può dire che c'è stata una progressiva presa di coscienza dell'importanza di questo aspetto della vita cittadina e quindi un intervento sempre più preciso delle amministrazioni comunali in questo settore. Si possono fissare anche alcune tappe di questo progressivo intervento. Inizialmente vediamo che la preoccupazione delle amministrazioni cittadine è quella di regolamentare per qualche aspetto la presenza dei maestri in città. Gli statuti, come detto, hanno sott'occhio un settore abbastanza limitato, cioè si preoccupano di stabilire a quali condizioni il maestro deve stare in città, le esenzioni, il periodo magari in cui deve rimanere in città, talvolta anche l'anno scolastico, la durata dell'anno scolastico, ma diciamo dal punto di vista finanziario non c'è un impegno diretto, perché la maggioranza delle scuole sono scuole private per questo aspetto, possiamo dire, no? Cioè in cui gli stessi utenti pagano il servizio attraverso una contrattazione con il maestro. Contrattazione appunto però che non è lasciata completamente all'arbitrio delle parti, perché l'amministrazione per esempio si preoccupa di fissare le garanzie per il maestro che questo pagamento gli venga effettivamente contribuito, oppure che gli studenti non gli levino il frutto del suo lavoro assentandosi a metà dell'anno scolastico quando dovevano pagare la seconda rata e quindi costringendolo a rimanere in città senza di che vivere. Poi vediamo che naturalmente poi dico cronologicamente, presentarlo come una successione cronologica è anche arbitrario, no? Perché abbiamo diverse situazioni, ma diciamo abbiamo una forma di intervento misto per quanto riguarda il finanziamento della scuola, cioè abbiamo esempi in cui lo stipendio del maestro è pagato in parte dal comune e in parte dagli scolari, oppure esempi in cui anche quando sono gli scolari a dover pagare il comune si fa garante del pagamento di questo. E poi abbiamo anche dei casi in cui lo stipendio del maestro è tutto a carico del comune, però io questi casi li ho visti attestati in situazioni di grande molto sfavorevoli per il maestro, in cui quindi si può supporre che l'intervento del comune fosse necessario per assicurare la presenza del maestro in città, che altrimenti non avrebbe avuto nessun motivo per andare in un posto dove la richiesta di insegnamento era molto scarsa e quindi i suoi guadagni altrettanto precari. Allora lì vediamo che in questi casi vediamo appunto che il comune cerca di intervenire molto massicciamente per assicurare almeno la presenza di un maestro, per lo più si può supporre e si può anche dire, seguendo la sua carriera, di livello non molto elevato. Però in ogni caso, diciamo, la presenza di un insegnamento libero, per così dire, c'è sempre nell'interno della città, perlomeno per quanto riguarda i forestieri, perché molte volte l'incentivo per il maestro a insegnare in città era rappresentato dal fatto che oltre allo stipendio del comune molto modesto gli era concessa la possibilità di insegnare ai forestieri percependo lo stipendio che insomma quello che era stabilito liberamente da questi. Non so se ho risposto a quello che lei mi chiedeva. Poi si potrebbero dire altre cose. Zweifellos, dass zunehmend der elementaren Schulbildung, also der Leute, die lesen und schreiben können, auch in den Städten zu einem vermehrten Bewusstsein der Notwendigkeit des solchen Unterrichts geführt hat, so dass in den Statuten zunächst allerdings sozusagen Äußerlichkeiten geregelt werden, vor allen Dingen der Versuch, die Anwesenheit von Lehrern in der Stadt zu sichern, und die äußeren Bedingungen, wie etwa Preise und Frage der Verweildauer des Lehrers in der Stadt und Ähnliches zu garantieren. In der Mehrheit waren die Schulen allerdings immer Privatschulen. Wo nötig, erfolgt dann unter Umständen auch teilweise Bezahlung des Lehrers durch die Kommune, wenn eben das Schulgeld nicht ausreicht. Die Kommune garantiert außerdem gegebenenfalls, dass die Bezahlung der Schulgelder durch die Eltern oder durch die Schüler und nur in Fällen, wo es unbedingt nötig war, scheint auch vorgekommen zu sein, dass die Kommune den Lehrer ganz bezahlt hat, wobei allerdings immer übrig bleibt, dass diese Bezahlung verhältnismäßig gering ist und dass man eher versucht, dadurch, dass man dem Lehrer erlaubt, auch auswärtige Schüler gegen Bezahlung anzunehmen, sein Gehalt aufzubessern. Der freie Unterricht, also durch nicht von der Stadt bezahlte Lehrer, war fast immer festzustellen. Diese Bezahlung durch die Stadt erfolgt eben nur dann, wenn die vorhandenen Lehrer nicht ausreichen, wenn es möglich ist, Lehrer in die Stadt zu ziehen, damit die Unterrichtsmöglichkeiten gegeben. Vorrei dire ancora un'altra cosa, se mi è possibile. Posso? Cioè, diciamo, il progressivo maggiore interessamento del Comune a questo settore si nota anche per altri aspetti. Per esempio, la volontà di imporre un controllo su tutto questo, questa materia, si vede anche dalla storia dei collegi, dei maestri. Per esempio, in quello di Genova si vede molto bene. Sia come controllo dal punto di vista della qualità dell'insegnamento e anche come intervento sulla materia scuola come attività economica in ambedue questi settori, perché vediamo che per esempio negli statuti del 1467 del Collegio dei Maestri di Genova, quelli che vogliono entrare a far parte del collegio devono fare domanda ai sindacatori della Repubblica, i quali nominano una commissione formata da due maestri e da due scribi del Collegio dei Notai, i quali devono vagliare la loro competenza professionale e poi anche sono quelli che vedono, cioè controllano che il maestro per entrare paghi la tassa che deve. Quindi c'è una doppio, diciamo, l'intervento è su due fronti, sia su quello appunto della competenza professionale, sia su quello della scuola come attività economica. Als Ergänzung hat Fräulein Vorwein noch darauf hingewiesen, dass es doch auch für Zeugnisse für eine gewisse Kontrolle über die Schule in italienischen Städten gibt. Sie hat das Beispiel von Genua genannt. Oder sie hat gesagt, dass diese Kontrolle insbesondere an den Lehrerkollegien zu spüren sei und deren Stellung in der Stadt. In Genua zum Beispiel gibt es ein Statut des Collegium Magistorum von 1477, wo geregelt ist, dass wer in das Kollegium der Lehrer aufgenommen zu werden wünscht, einen Antrag stellen muss. Eine Kommission wird von der Stadt eingesetzt, der zwei Lehrer und zwei Schreiber bzw. Notare angehören. Die prüfen die sozusagen fachliche Kompetenz des Antragstellers und prüfen außerdem, ob er in der Lage ist, die Aufnahmegebühr in das Kollegium zu zahlen. Sie sind also gleichzeitig sozusagen Fachkontrolleure und kontrollieren außerdem die wirtschaftlichen Seiten der Schule, also die Frage der Zahlung von. Io volevo solo sapere se testi come le pratiche della mercatura sono mai entrate a far parte dei contenuti dell'insegnamento delle scuole d'abaco superiore, o se l'insegnamento era puramente asciato di questa scuola d'abaco. Scusi, forse vuole capire. Il Barone fa le pratiche della mercatura, das sind Kaufmannshandbücher, die sich seit 1400 ziemlich zahlreich erhalten sind, jemals zum Unterrichtsgegenstand in den Schulen gemacht worden sei. Dunque, penso che questi testi si possano portare a documentazione del tipo di insegnamento nella scuola d'abaco, cioè quella che interessava la scuola d'abaco superiore, diciamo, certo non il semplice far di conto, ma non si possono considerare veramente testi scolastici. Questi testi scolastici, seppure c'erano, non ci sono conservati, possiamo ben dirlo, e quindi dobbiamo, per vedere quali erano i contenuti, ma diciamo proprio solo i contenuti dell'insegnamento, rifarci a questi testi che avevano poi una circolazione ben al di fuori dell'ambito della scuola e si potevano considerare in alcuni casi dei testi con certe ambizioni scientifiche, in certi altri casi come dei prontuari o dei manuali. Questo si vede molto bene anche dalle loro caratteristiche, per esempio alcune hanno delle tabelle molto precise, molto tipiche. D'altra parte il fatto che l'insegnamento dell'aritmetica si sia sempre servito, oltre che della oralità, di un modesto uso di testi, anche e soprattutto dell'uso di strumenti pratici, è un dato di fatto che interessa non soltanto la scuola tardo-medievale, ma anche la scuola alto-medievale. Anzi, questo è uno degli aspetti molto interessanti dell'insegnamento dell'aritmetica, che non è un insegnamento che si basa esclusivamente sul testo scritto, ma anche in epoche molto antiche, quelle di cui normalmente si dice che non c'è assolutamente nessuno scambio, diciamo, tra la manualità e l'esercizio delle professioni intellettuali, invece questi strumenti c'erano, e appunto l'abaco nella sua prima introduzione era uno di questi strumenti, ma anche molti altri, oppure i giochi matematici che si svolgevano appunto su uno scacchiere, oppure gli astrolabi, insomma tutte queste cose qua, no? Quindi è possibile pensare che anche nella scuola tardo-medievale si usassero più strumenti, o comunque, diciamo, e questa è una differenza notevole, diciamo, anche lo scritto, però in forma più attiva, diciamo, che passiva. Infatti, ancora una volta, questi trattati di mercatura ci fanno immaginare come poteva essere quando ci fanno vedere gli schemi con cui si eseguivano le operazioni, ecco, queste cose qui. Ma certamente... Ecco, però certamente non possiamo considerare questi come libri di testo, questo no, senz'altro. Vor dem Vortrag sagt, dass diese Kaufmannshandbücher, also Artikel mit der Merkatura, wahrscheinlich nicht als Schulbücher gedient haben, dass aber der Inhalt durchaus in den höheren Klassen der Abakus, also der Rechenschule, vorgekommen sein kann. Sie hat dann vor allen Dingen darauf hingewiesen, dass schon seit dem frühen Mittelalter ein großer Teil des Unterrichts mündlich vor sich geht, heißt ohne Schulbücher, nicht aufgrund von schriftlichen Büchern, oder aber mit Hilfe von Instrumenten, das heißt Werkzeugen, wie der Abakus eins ist oder das Astrolabium oder andere. Und dass es, wenn überhaupt es Bücher, Schulbücher für die Kaufmannskunst gegeben hat, sie wahrscheinlich anders ausgesehen haben müssten als die Grafik der Mercatura, obwohl diese zum Teil sehr genaue Zahlentabellen, posso dare una parola a me stessa? Certo. Io volevo domandare se sappiamo niente sullo studio e l'insegnamento delle lingue moderne. È una domanda a cui mi porta da un lato il richiamo che la dottoressa Barone ha fatto alle pratiche della mercatura. Dall'altro un acquisto che mi dispiace di non ricordare il titolo preciso, che abbiamo fatto abbastanza recentemente a Bologna, su un dizionario italo-germanico che mi pare che sia del Cinquecento. Quello di Venezia? Sì, quello veneziano. Sì. Cos'è il Cinquecento? No? Ecco, inizio del Cinquecento. Pasoli fragt nach dem Unterricht in modernen Sprachen, der ja für Kaufleute auch sehr wichtig gewesen sein muss. Und sie fragt insbesondere deshalb danach, weil verhältnismäßig vor kurzer Zeit man ein italienisch-deutsches Lexikon aus dem Beginn des 16. Jahrhunderts gefunden hat, welches zweifellos also für solche praktischen Zwecke aufgelegt hat. Dunque che naturalmente, occorre appena dirlo, che nell'ambito di cui ci interessiamo ci sia stata una larga espansione della conoscenza delle lingue straniere è una cosa che va da sé. D'altra parte sulla competenza linguistica dei mercanti fiorentini, già il Beck ha scritto molte cose e ha raccolto anche molte testimonianze che provano appunto questo interesse del mercante fiorentino per le lingue straniere. D'altra parte anche la storia della diffusione di determinati testi letterari anche nei vari ambiti è una prova inequivocabile di questa realtà. Che però l'insegnamento della lingua fosse oggetto di l'apprendimento della lingua fosse oggetto di insegnamento formalizzato nelle scuole di cui ci siamo occupate, io non ne ho trovato testimonianza, se non appunto in queste pratiche di mercatura, che però la cui attendibilità come specchio dell'insegnamento scolastico è già stata in parte discussa proprio in seguito alla domanda precedente. Ci sono tutte le tabelle in cui per esempio vengono indicate i nomi dei pesi, delle misure, delle monete, eccetera, nei vari ambiti in cui si svolgeva il commercio di queste persone. Però che questo venisse insegnato esplicitamente nelle scuole, in queste scuole di cui mi sto occupando io non ho trovato nessuna testimonianza, magari mi piacerebbe trovarla. Frage von Fräulein Pazzoni ging aus davon, dass in diesen Praktiken der Latinaschatura sich auch Termini in anderen Sprachen finden, vor allem für Maße und Gewichte. Und Fräulein Vorbach hat darauf hingewiesen, dass es Arbeiten gibt über die toskanischen Kaufleute und ihr Interesse an der Kenntnis oder Beherrschung anderer Sprachen. Dass aber mit ziemlicher Sicherheit sie bis heute kein Zeugnis kennt über den Marktunterricht in modernen Sprachen in italienischen Schulen. Insomma, adesso parlando in generale, scusi se faccio ancora una precisazione per introdurre un aspetto generale che è ovvio ma cui forse è bene insistere. La quantità, cioè il processo dell'apprendimento aveva una minimissima parte formalizzata in questi contesti, cioè di tutto quello che una persona nella sua storia personale veniva ad apprendere, soltanto una minimissima parte era quello che lui imparava a scuola. Questo è un dato di fatto in questo tipo di società, non c'è bisogno di insistervi, però anche questo ne è un aspetto, insomma è assolutamente impensabile. Poi lo stesso contenuto, diciamo, su cui ho insistito forse anche troppo, arretrato, inattuale, di certa parte dell'insegnamento, dimostra che sì, queste scuole fornivano un insegnamento molto generico di base, ma che poi tutta la storia dell'apprendimento dei singoli individui avveniva in tutti gli altri ambiti, e anche questo, diciamo, diminuisce l'aspetto apparentemente, diciamo, unificante della scuola nell'interno di queste comunità cittadine. Cioè, se uno legge quello sembra che tutti i cittadini più o meno, a parte il problema, diciamo, dell'ampiezza della scolarizzazione, ma anche ammettendo che tutti quelli che erano nella città andassero a scuola, cosa che è assolutamente impensabile, rimane sempre il fatto che la stratificazione culturale delle classi aveva tutta un'altra storia che non quella che si poteva svolgere nella scuola, perché nella scuola era data una minimissima parte delle cognizioni che poi venivano acquisite durante il corso della vita delle persone. Dico, questa è una cosa ovvia, ma... dass die Schulbildung, die in den von ihr geschilderten Schulen erteilt wird, nur ein ganz geringer Teil der Ausbildung, der Berufsausbildung ist, dass der meiste Teil der Lehre, so soll man vielleicht besser statt Berufsausbildung sagen, individuell ist, nicht durch Vorschriften inhaltlicher Art festgelegt, und dass sich dadurch eben auch die Unterschiedlichkeit, die Mannfaltigkeit in der Bildung der Bürger ergibt. Nur das Unterste, Lesen, Schreiben, Latein, Rechnen, wird sozusagen gemeinsam und gleicherweise in einer Stadt gelernt. Alles Weitere ist Sache der individuellen Biografie, der Möglichkeiten, des Ehrgeizes und der Gelegenheiten der Gesundheit. Darf ich noch ganz kurz etwas beifügen zur Frage der modernen, also der zeitgenössischen Sprachausbildung? Es wäre es denkbar, dass die vermögenden Handelsfamilien in ähnlicher Weise, wie es bei uns nachweisbar ist im Bereich des vermögenden Adels, eine sogenannte Kavalierstour gemacht haben, um also diese zeitgenössischen lebenden Sprachen im Ausland und so weiter lernen zu können. Dottor Hille accenna al uso dei nobili dell'età moderna di mandare i figli in viaggio per imparare le lingue, e vuol sapere se anche i mercanti ricchi abbiano inviato i loro figli nei paesi stranieri per questo scopo, cioè l'imparare delle lingue straniere. Non lo so, cioè mi risulta difficile stabilire se proprio lo scopo fosse quello di imparare le lingue straniere. Certo, di fatto le imparavano, insomma, era certamente una... Quando esiste il sistema del mercante sedentario con le filiali, si sa che sì, questo è senz'altro. Ha detto espressamente che andavano per imparare la lingua, cioè nelle lettere specifiche. E poi, sempre per le lingue, io penso che non ci fosse un insegnamento scolastico, assolutamente. dei dizionari nascono molto prima di qualsiasi altra cosa, o i lessici. Anche per le lingue molto strane, so, a Genova già nel 1300 c'è il lessico latino-cumanico. Sì, sì. Mentre le grammatiche testimoniate sono tutte dell'età moderna. Uno. Secondo, anche gli ordini mendicanti che curano nei sistemi scolastici molto più facili da studiare dal punto di vista dei contenuti, non hanno mai previsto degli studi linguistici, specialistici. Anche se, teoricamente, essendo la loro attività di predicazione, poteva essere considerato molto utile imparare le lingue di altri paesi per poter predicare da loro. E invece si ha l'impressione che la confessione, per esempio, fosse limitata agli individui nati in un certo luogo, che si dice degli estranei non confessare. Mentre le lingue venivano studiate solo in funzione della missione, per cui esistono sì gli studi del Barcellona, il famoso studio di arabo, no? Oppure lo studio dell'ebraico, ma solo in prospettiva di conversione degli infedeli. Per cui io direi che se neanche i mendicanti ci sono arrivati, è molto difficile che qualsiasi altro ambito si sia sviluppato in questo momento. Vor ein paar Wochen weist auf die Bettelraum hin, in denen die Sprachen eigentlich eine große Bedeutung hätten gehabt haben müssen, mindestens für das Reich gehören. Und die Predigt, wo es keine Zeugen für Sprachunterricht gibt, obwohl man die Lehrinhalte der Bettelraumschulen sehr viel besser und genauer kennen kann als die der städtischen Schulen. Nur eine Ausnahme gibt es seit dem 20. Jahrhundert schon. Es wird Arabisch und andere orientalische Sprachen ausdrücklich gelernt. Das Prinzip von Bien bestimmt sogar, dass solche Schulen eingerichtet werden müssen für die Zwecke der Mission. Für Heidenmission wird Sprachunterricht eingerichtet, aber für die Seelsorge im fremden Land, im christlichen fremden Land, gibt es Sprachunterricht nicht. Jedenfalls nicht im Mittelraum. Umso weniger, sagt sie, wie mir scheint, vielleicht ist das in den städtischen Laienschulen zu erwarten. Dunque, volevo dire soltanto una cosa riguardo a questo. Senz'altro le tue osservazioni mi sembrano convincenti, la seconda del tutto, la prima anche, diciamo, però su questo punto forse si potrebbe discutere. Considerando molto bene, insomma, si possono trovare altri argomenti, considerando molto bene le tecniche di insegnamento delle lingue straniere, perché effettivamente nel modo di insegnamento delle lingue non proprie nel Medioevo il lessico costituiva comunque un capitolo importantissimo e talvolta esclusivo, per cui anche in situazioni di bilinguismo molto spinti, in cui abbiamo altre prove per altro verso dell'insegnamento della lingua non propria, non abbiamo testimonianza di grammatica e abbiamo testimonianza di lessico, cioè la presenza del lessico senza la grammatica non è di per sé una prova del fatto che non veniva formalizzato l'insegnamento della lingua, perché molte volte l'insegnamento della lingua consisteva nell'apprendimento del lessico dell'altra lingua senza preoccuparsi della grammatica. Cioè, sono specie di manuali di conversazione, no? Ci propongo di non interrompere la discussione ma di continuarla a tavola. C'era un iscritto, dopo del quale chiudiamo la discussione. Un richiedente. Vorrei dire brevemente che anche ad esempio nella Curia Romana, da quello che vedo io con le ricerche sul cardinale Ludovico Madruzzo, verso latine sono 1570-1600, lui era apprezzato perché conosceva un po' di tedesco e sembra, da quello che appare, così una cosa abbastanza rara. Non molti nella Curia Romana conoscevano tedesco, perché sono anche molto poche le persone, tipo Minuccia e Minuccia, che si occupano di questioni con la Germania, anche perché molto pochi conoscono Questa è una prova appunto della diversità e proprio della totale divaricazione sempre più aumentante del mondo della cultura volgare e del mondo della cultura ecclesiastica, no? Perché invece nel mondo della cultura volgare questa acquisizione di competenze linguistiche in altri ambiti è fortissima. Nel mondo della cultura ecclesiastica questo certamente non era un bisogno altrettanto sentito, proprio perché il latino continuava a costituire una base. La proposta di Prodi è molto saggia. Der Hinweis darauf, dass noch in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts der Kardinal Madozzo an der römischen Kurie deshalb besonders geschätzt wird, weil er wenig etwas Deutsch kann, der viele andere kein Deutsch können, hat Fräulein Vorwahl veranlasst, darauf hinzuweisen, wie verschieden die Welt der Kaufleute und die kirchliche Welt der Kurie ist, die sozusagen auf Latein beruht. In der Kaufmannswelt ist die Kenntnis fremder Sprachen weit verbreitet. An der Kurie hatte man das nicht nötig, da hatte man eben das Latein. Aber ich glaube, wir sollten Herrn Prodis Aufforderung jetzt auch noch ins Deutsche übersetzen. Er wollte die Diskussion nicht unterbrechen, sondern vorschlagen, dass wir sie beim Mittagessen fortsetzen. Ich würde trotzdem gern ein einziges Wort sagen. Ich habe unendlich viel in diesen Tagen gelernt und bedanke mich an allen Teilnehmern. Sie wollen Garato Motis, respektieren hatte. Ich stelle die so werden hier noch an dem Appartamento per ringraziare. E quello che tutti noi. Soltanto due parole, ma doverose. A nome di tutti i borsisti, il dottor Cora più di io, vorremmo ringraziare il professor Paolo Prodi e quello di tutto l'istituto per averci dato questa possibilità di questa settimana. Ringraziamento anche ai relatori e ai presidenti che ci avessero stati.